CQ canale 23? CQ 23 c'è qualcuno? CQ canale 23 c'è qualcuno in ascolto? CQ 23 c'è qualcuno? O siete tutti morti? C'è qualcuno in ascolto? CQ canale 23? CQ c'è qualcuno che ascolta? Ok, signor Bacchisio. Sicuro, sicuro. Ma come mai così presto? Sono. Ho detto, come mai così presto? Non sapevo da fare, mi sono detto. Come devo sistemare questo effetto del microfono? Salgo subito e lo faccio. Ancora combattendo con quel microfono, sì. Ma devo cambiare il coso, l'attacco, era un po' disgraziato, però va. Mi ho messo uno nuovo, capito? E infatti sto facendo come io adesso. Però ho provato sull'altro e non va. Ma non sono tutti precisi, Gli attacchi non sono tutti precisi dei fili, Devi rovinare i fili, devi guardare. Ho lato il microfono lo stesso. E l'apparato non funziona, adesso lo faccio sentire. Se lo metto più sfruttato. Bisogna buttarlo, bisogna buttarlo. Buonasera. Buonasera, signor Giovaglia. Come te vi sa? Come? Dimmi, Bacchisio. Non ho capito niente. Ma sei Giovanni che sta chiamando Bacchisio? Dimmi, Bacchisio. Esce adesso questo. Vedi, questo è il vecchio. Ehi, sta uscendo, amplificato, sta uscendo. Vecchio, adesso quando scaldo non esce più. C'è qualche malattia, c'ha, capito? Lei che attacco l'altro. Allora sicuramente ci deve essere o il condensatore o il diodo della parte del microfono. Eccolo già, che scalda e non esce. C'è qualcuno d'accordo? Buonasera, signor Figaro. Buonasera, signor Bacchisio, vabbè, come se la fa? Poco fa sei uscito, sembra una canonata, però tutto amplificato. Cosa hai combinato? Era sul vecchio, era. E adesso ho passato a nuovo. Ah, hai sentito, dottore? Quello là, Bacchisio, da avere qualcosa sul condensatore, c'ha dei condensatori, come scaldano? Non vanno. Non so dove mettere i piedi, io non so dove mettere i piedi. Quello lo deve guardare qualcuno esperto, qualcuno che sa dove mettere le mani, Bacchisio. Loro da accoso a chi non sa di punire le mani. No, lo spedisce in continente, mi qua. Vai adesso che lo spedisci, Bacchisio. Sì, pensando ci sto. Volevo sentire il parere di cugino, cosa dice? Vedo un po' tu, dai. Se ti piace, fatela aggiustare allora. Magari se avevo detto che mi piace, è chiaro che non posso lasciarlo una parte. La giusta, ciao. Vedo un po' tu, dai. Mi ha fatto vecchio, però funzionava sempre bene. Perché c'ha 34 canali, AM, FM, SB, USB, tutto. Lo smette che ho incorporato. A fare il prezzo di questo qua, di quei nuovi ce ne vogliono 5. Va, sai, vabbè. Come sta andando a male. Quanti anni ce l'hai quell'apparecchio? Non dico molto, dall'86 all'87, da quegli anni lì. Allora, devi presentarmi. No, ripeto, se ti piace, fatti aggiustare. Poi se lo spedisci su, già c'è il tuo cugino, si interessa a lui, dai, per cui penso che meglio di che a farlo come si deve, dai. Poi quando mi mettono male con la gente, te lo sai che fanno le cose ben fatte, dai. Quel tipo lì riparano le radio militari, le navi degli aerei, tutto, e più quelli degli amatoriali fa. Lasciano quel lavoro, non fa altro. Ehi, allora, ce lo riparano, là. Basta trovare i pizzi. Se non mettono i curvalenti e va bene lo stesso. A vedere se si prende la briga in robe piccoline, magari con là è abituato a fare robe grosse. Questo era per lui con tutti i cadenti. Ciao per tu. Ma chi? L'unica cosa che c'è è che loro attaccano. Cosa attaccano? All'oscilloscopio. E sanno dove è il guasto. E io lo passo all'altro professore. Vai buddista. Il nome Biaggi. Fare Giovanni. Ma infatti. Io per tu, tutto bene? Sono del mestiere che fa questi lavori, chiaro c'è un'altra stazia, tanto se ne occorre. Come la macchina adesso, c'è uno strumento, dice gli attacchi a posto, l'attacca a quello lì è stato subito dove sei il guasto e quello va qui. Certo che qua e chi ripara qua? E c'è Fuglioni e a me e si guarda subito, o non so. Infatti no, bisogna fare una gruzzita. A Cagliari già avevo uno che gli ripara. Oh, bisogna sempre. Uno non è certo per radio. Sì, lo vai a usare da me e la racconto io, con un mattino. Chi è che vuole entrare? Ciao Giovanni, la Pazziru, l'unica cosa che non serve, la Pazzira. Ciao Giovanni, ciao Tony, il Bacchisio, buona serata a tutti. Avanti Giovanni. Ehi, ciao Giù, buonasera. Io amore assiligente, grazie a te, va. Ogni tanto, una chiacchieratina. E ti amo avanti, alla bella vita. Tutto bene, sì? Sì, tutto bene. Ehi, sempre guardando partite di calcio, tutti i giorni, partite straniere, cosa vuoi fare? Tanto se frequenta, non sentivo più nessuno. Oggi è quasi un miracolo aver sentito voi. Non c'è più nessuno, vabbè, pazienza, dai. Non fa niente, quando ci sono ci sentiamo e ci salutiamo, quando non c'è nessuno, pazienza. Ok, avanti Bacchisi. Buonasera signor Giulio, ben ascoltato dopo 12 secoli e mezzo, ma meno male che ti sei affacciato. Te lo sto dicendo, quindi è il periodo delle partite questo, dunque quando partite dalla mattina alla sera, perché anche di volte tardi, no? Partite straniere, dove l'orario, il fuso orario è diverso, viene sempre, mi sono convinto di tracco, di guardare il calcio, ma è d'altronde cosa faccio? La mattina faccio 4 passi, quello sì, d'accordo, stamattina mi ho fatto una passeggiata a Porto Torres, mi ho comprato il Lumaconi e i polpi, gli omali, per cui sono andato bene. Riprendi, Tore? Hai fatto bene a farti la passeggiata. Comunque a noi, se vuoi entrare, noi ci siamo dalle 7 in su, ci siamo, anche prima. Sì, in effetti oggi sono le 6 appena, sono le 6 e 5, per cui, no, ma ripeto, ero impegnato guardando calcio, dai, sport in genere. Comunque va bene così, mi fa piacere di ascoltarti, ci mancherebbe. Bene, teniamola viva questa frequenza, perché ormai sta andando proprio a rotoli del tutto. Pazienza, avanti e giovani. Brecco! Niente brecco a te, niente, no, la porta è chiusa per te. La prendiamo come viene. Se c'è qualcuno che ci possiamo chiacchierare, chiacchieriamo. Se no, oggi chiaramente proprio lasciare la cosa giù e non mi so problema. Tanto abbiamo tutto pagato, così che non ci serve niente. Solo un po' di salute e basta. Avanti, bene bene. Buonasera a circolare a tutta la staff. Ciao, Torre senza motore, Giorni Maria e Giulio, oh, che ha fatto a Pinocchio. E poi non so chi c'è. Avanti, Torre. Ciao, grazie. Comunque la Ian era già arrivata a battermi. Certo, però era un BMR. Mi è basso dappertutto, mi bella bene. Vai Giulio. Ciao, grazie. Mi è vero, ma non so come condizionare un busto più. Allora sai, non me la metto nemmeno condizionare un burito. È dentro un cassetto, ma non mi ricordo quale. Comunque, anche quello si è iniziato da un bel po' di tempo. Pazienza. Ebbene, grazie. Andare. Per aiutare che subiato, che stai già regando, che stai già mandando la salita dei cinesi. Boh, non mi roba buona, lì ce l'hai. Ci sono i ghicchi. Eia, eia, buono era, tutti vivi e ce li ha mangiati. Eia, già l'ho visto, già l'ho mandato a Luca anche mi sembra, a Luca Manicomio, non l'avete sentito. Eia, avanti Gianmari. Ehi, sarà mangiato il passaporto Luca, mi sa che entra in occhio. Basta da mangiare che deve crescere ancora. Bacchi, cosa ti dice? Ciao Graziano, buonasera, ben ascoltato. Non è comare si è accelato il cafroburo. C'è per un qualcosa serrato, Graziano. Avanti, Graziano. Ciao Bacchi, no, che sono in lutto, è morta la cagnolina, poverina. L'ho messa anche su Facebook. Avanti ieri. Eia, poverina, la chiama al veterinario, perché tanto stava soffrendo. Ci ha fatto due iniezioni ed è burata. Se così non c'è nulla da fare. Se fa farla soffrire, meglio va a lavorare subito, non soffre. Tanto non se ne accorta niente, se è dormita è buona. Gli ha fatto una preanestesia e si è dormita subito. Dopo tre minuti gli ha fatto l'altra, quella fatale, chi se non si base ci dà più. E ha cessato di respirare, poverina. Stava soffrendo, era due notti, sempre a Tunci, non mangiava più nemmanco. Poi sempre cuccata, per soffrire l'ha già chiamato e gli ha fatto fare la puntura, poverina. Già se ne ha avvisato a Barò che loro venne ammazzata, già non ha sofferto, poverina. E vabbè, me la mai bene, poverina, e se c'è molta luce a bici, mi la disarrabbi. E vabbè, là. Va bene, ho fatto un bel bauletto, l'ho messa dentro e l'ho messa in campagna. E mio figliolo l'ha parato una bacchetta con le margherite. Oh, grazie, stamattina, siccome stavo dicendo un po' grazie, che era un po' dottore, cioè, e c'erano quelli del canile che stavano dando i cagnolini in affido a chi li voleva. Beh, le mi erano bellissimi, veramente. A Porto Torre, se andate a trattare le bancarelle. Ma non ne voglio più, no. Lì c'è già un secondo che sta già sottarrato. Perché ti affezioni, poverina. Già mi è dispiaciuto, anche se la stavo maltrattando ogni tanto, prima però, a vanno. Qualche calcetto già gliel'ho dato, qualche ciaffetta a capo, però già mi è dispiaciuto, però per vederla così, era due minuti, tutta la notte ci dà da bauletta come più, sempre a Tunci, senza mania, ha già provato a buccare vivo e ne rugassava, e allora fa vederla così, ho chiamato il veterinario, quelli ai punti mi sembra di... Ho pagato 80 euro e me l'ha borsa. Dice se voi gli facciamo un prelievo, le analisi e la gitana lo vedi come è messa, cosa riposto, la nano cammina, è all'ingappura, non la vede come è in sé, non mangia, ma no, fagli la puntura. gliela porta. Certo, se l'animale stava soffrendo così a quel punto lì, l'hai fatto bene, tutto sommato, è inutile farla soffrire, tanto sarebbe morta ugualmente. Vabbè, magari era morta con tanta sofferenza, invece in questo modo hai fatto bene, tutto sommato, grazie. Era molto, molto vecchia, era come età. 17 anni ce l'avevo, e dunque l'ha giusto burato, c'è oramai c'è anche 17 anni, ah, vabbè se è già invece, e poi non la voglio vedere io, pur si va la cura, che cura le va, è sciancata, è dimagrita, è un osso, non mangia, cosa la tengo io, non ti indi là tucci, no. Per farla morire soffrendo è meglio che muore subito, che neanche se ne accorge. E infatti, gliel'ha fatta, l'ha addormentata, e dormita la stessa, se si è muta. Poveretta, anche loro, anche gli animali soffrono, soffrono, come le persone. Ma comunque, faccia l'anima sua. Avanti, Gian Maria. Quando così, ha fatto bene. Perché prima di tutto averla così fa anche male, per cui hai fatto bene, grazie. Però se ti avessi avvisato al curare eravamo venuti gli ottore Bacchigio pure, non ti ha avvisato che cosa vuoi fare, pazienza, hai fatto tutto da solo. Mia cognata mi ha detto che c'è un capusanto, buono le margherite, ma bacera manna le margherite. E figlio era accompagnato, poverina. Era la sorellina pelosa, la chiamava, era un bel attaccato il burroese. Perché già se ne faceva compagnia, infatti aveva, posso con qua pigliare mia, prima o poco me la pigliavo questa. Uno di pigliare la cosa e piglia sempre appresso a me. E dove l'hai portata, uomo, grazie, dove l'hai messa adesso che è morta? Da me. E c'è anche l'altra ghida vicino all'altro cane, l'ho sotterrata, che si chiamava come lì, quella l'originale, da diciamo, o chi sai, chissà, me la multa, ero veterinario e sto passaggio, allora c'era la lira, 500.000 lire mi ha fatto pagare, mi ha dato rugani molto 31 a casa, la giù mai me lo magno. Tu dove ammazzare Edo? Vuol dire che gli hai sbagliato la cura, ma te ne immagini. E ti ha fatto il burbagà, la volta che ti ha ammazzato il lugar, te l'ha fatto il burbagà, incredibile. Vabbè, anche loro sbagliano, perché loro sono uomini, e purtroppo succede. Avanti, Bacchizio. Mi ne esci tu, a gaccetta la 30, rugale 30, io non ce l'ha fatta al giocare, cazzo di arrugare, cosa cazzo l'hai fatto? È diventato un palloncino, l'ha fatto un plebe, si rubò a casa, quando l'ha già rigata a vedere cosa va via, l'ha fatto un plebe, l'ho sento a casa dopo un paio di ore, ma se domani me lo porti, lo ricontrolliamo, arriva a casa è diventato un pallone il giocare, forse abbia un'unità, allora l'ho riportato, si è dato da 30 e mi ha bucato molto 30 la cattua. E vabbè, ho dura faccia di dimmi se vuoi, te ne do uno, qua ce ne ho uno. Ma è buon di Dio, se no è meglio che ti nanda in presa pure, se no ti grimbo. Miserabile. Vabbè, purtroppo. E cosa vuoi fare, grazie. Però è stato disonesto, se sta abbassando un braccio, sta pigliando 200.000 branche, non è possibile. Questa gente vuole fucilata, boh. Avanti, Tore. Grazie, tutti bene, ormai. Se è andato, non sei tranquillo adesso. Ah, ma no, te la devi pigliare con te stesso. Sì, vabbè, che era la compagnia mia, va, non per nessuno, si sta di chi viene a trovare da sino. Ogni adatto morroniava e mi abbaidava e assava un gabbo, no, con la recce dritti. Capì? Si ridi di che cosa? Che io gli dia cosa vuoi? Allora gli dà qualche biscottino così. Mi, immagino che io ho buccato un eroletto, mi. Se lo vuoi. No, non è proprio, si è fatto un pietro, ma c'è più niente burugi. La dice, vai di una roba a letto, se no ti posso venire, metti in arrego, no uno, adesso se ne vuoi gare. Ma così fa, capita, non è possibile. La vita che si è presa la moglie di Sandro Ciutti, l'ex radiocronista del calcio e anche di altri sport, era rimasta senza casa, no? Perché non pagava l'affitto, l'avevano dato lo sfratto e si è presentata in televisione con quattro cagnolini e viveva in macchina con quattro cagnolini. Un assessore di un comune, non so di dove, gli ha dato la casa. Beh, l'ha rifiutata perché dice che non ci stava con tutti e quattro cagnolini. Ma se stai dentro la macchina, non stai dentro l'appartamento, per quanto piccolo possa essere. Ha rifiutato la casa, chi non sapeva è da come si alloggiava i cagnolini. Ma te ne immaginate, quattro ne aveva. Io c'è macco allora. Riprendito! Infatti io c'è macco così. Alla sarà a casa certo, se vi stai 30 la macchina con 4 cani vi stai 30 in casa, vi stai di più. Ma gente ignorante vuol dire che non è piatti la pesce a casa allora. Sei giù maendo. Signor Bacchisio, ci sei? Sì, ci sono, vai. Un attimino di bianco per me, che devo andare giù. Che me l'ho chiamato da giù, non è cosa voglio. Un attimino di bianco, poi io rivengo. Sì, siamo qua, ok. Signor Giomarì. Faccio osservare ha voluto ligare, però l'ho fatta adesso, l'ho rifiutato. Avanti, giù. Ma evidentemente chi stanno fuori a pagare affitto, che ha detto noi dici, mi fate pagare affitto e ciò che più male. Allora dice così. La paga la bocca me ne ha rubato, che se non ha voluto, che se no deve pagare luci, Eva, affitto. Invece macchina non paga nulla, non è compreso. E buca, chi la gente la giunta. Sì, ma è una voglia, si è presentata la cosa da Barbara D'Urso, la trasmissione Barbara D'Urso. E dice, non penso che sia così tanto degraziata come te famiglia, ma cosa era? La nipote di Sandro Ciutti, il giornalista, il famoso giornalista sportivo. E dunque, non lo so, qui, una donna era questa. Quattro cagnolini in macchina di Tanzia, l'appartamentino non in Tanzia, secondo un capoletta. Non era adatto, dice Baridani. È incredibile, ragazzi. Stavo dicendo, la Bacchisio, ma che va alla radio fenomenale oggi, è bellissima, proprio bella, possente, una bella amplificazione, il Russo veramente è buona. Avanti, Tore. Sì, quella lì vuol dire non lo voleva l'appartamento, che se no toccava a pagare. Luzi, vagante, venne. Venne gente diversa. È meglio così. Ok, io signor Grazia. Cosa vestita? Ma stava a farmi l'analisi, sono con due chiedi, andando bene. Ma la mazzano ando ballo, speriamo non piova. A chi da vedere il telefono, la riga, la nuroppola, cosa si chiama, gli sta delle reni là, perché sono in cura con quella che ha l'ospedale di Alghero. E niente, mazzano, va la gamba. E poi quando faccio l'analisi domani la telefono per quando devo andare e uscì ando a chi da vedi un buccalli parlo di abbezzologo la visita del nufrologo. Ah, poi se l'ho fatto il tutto io ce l'ho il 18 dicembre alle 14:00 e ti viaggi ma di petto me l'ha data alle 14:00 e a dicembre la di prima devo andare da diabetologo, adesso mi sembra il 18, non me lo ricordo. E l'indomani devo andare alla pesca bianca, da chi si dice l'ossigeno, cosa si chiama, ma la visione, adesso non me lo ricordo, a fare quella visita lì. neomologo, grazie. No, a me è andato un candente, 15 anni fa, a fare la visita del controllo per l'intervento che avevo fatto, no? E mi hanno detto, adesso dice, è tutto a posto, tranquillo, pacifico, e venga adesso fra un anno per fare una nuova visita. Fra un anno mi ha demandato, a ottobre l'anno che viene. E dal pulmolo voi, l'indomani devo andare lì, sono il 18, 17, alle prima devo andare dal diabetologo, ma vedere le glicemie, mi ha detto, no, ti voglio vedere prima, se no in genere dal diabetologo vado 6 mesi e dopo altri 6 mesi, 2 volte all'anno, dal pulmologo vado lo stesso ogni 6 mesi e mi tocca a dicembre. Ho capito. Sì. E io non so con te chi sono, la striscia bianca, mi pare che non la abbiamo, se mi metto bene. Dopo c'è la guardiola, diciamo così, e lì dopo c'è l'ambulatorio lì a fianco. Sì, ci sono stato io con me un annetto fa, dai, perché avevo problemi mia moglie e dunque siamo andati lì, tranquillo e pacifico, e tutto era a posto. Vabbè, meglio così. Avanti, Giovanni. Non mancane mai, no. Queste cose non mancane mai, però bisogna andare e almeno sai quello che sai e siamo tranquilli in tempo. Che fai sempre, certe volte le cose vanno tutto bene. Andotto. Allora, purtroppo è così. Bisogna farle quando te lo dicono di farle, bisogna farle. E andare bene. Io gli ho fatto tutto e il 18 c'ho la visita con lui. Fa tutti bene Gio Marino, un poco fa tutti bene. Arrivato la stessa età, venne fa tutti. Oh, pure di giovani, non è che pure di giovani è di buia gli suoi clienti. Magari quando si è giovani, certe volte magari è più leggero, ma uno è una certa età, sa, non ce n'è una sola cosa, ma ce ne sono tante, per cui bisogna sempre prevedere per essere più tranquilli. Basta non pensare però, sentiamo. Non ci pensiamo come piace che vada, e cosa vi fa, tanto lo sappiamo che siamo di passaggio. Sì, quello già è vero. Tutta la vita che era morto Savia, il macellaio, che tu dei buchiti, che tu prende i boccetti ad agnoni. Poveraccio, ancora non era così grande, aveva 75 anni, è morto sul lavoro, l'avete sentito, sabato scorso, all'una è caduto di colpo, finita. E al mercato all'ingrosso, al mercato va, e l'ho letto da un giornale anche. Savia, il macellaio, quello che in fondo che vende la carne di porcetto, un po' di tutto, vende burro accessori, eccetera, burro vende alle volte, ma per dire, è tranquillo, stava lavorando, all'una gli è venuto questo malore, è caduto, e non si è più suicidato, la vita purtroppo è crudele tantissime volte. Ma non può essere nemmeno vista 75 anni a travagliano, 75 anni ci aveva. E piccione, ma era in pensione, stava lavorando lo stesso questo. Ha detto che tu non sa goduto nulla, è molto travagliano a 75 anni, ma buffonendosi. Non ci vuoi fare, grazie, purtroppo noi siamo tutti grati precisi, no? E d'altronde, forse che lui mi restava bene, si sentiva bene, lavorando, ma avevo poco, un colpo, visto non se ne è manca pesato, visto di colpo, è finito in chili. Certo, se si era sentito male, lo mangiano, prima non penso che sia andato a travagliare. Adesso stessa la una, se vuoi immaginare, praticamente a una di casa al macato. E casi della vita, purtroppo, ripeto, sono molto crudeli, tanti buchi, bisogna avere fortuna la vita. È venuto praticamente un infarto fulminante quando ha fatto a me braddito, era abusato, gli è giunto un colpo secco, un colpo a terra. così è successo all'inizio. Quando si viene in infarto così, muori subito. Per dire, la cosa è capitata a mio fratello, oh, c'è la lianna di casa sua, che era un senso di soffio, sono entrato subito. Oh, per la venuta che fa. Quando capita così, no, cosa? Dice, un corpo secco e basta, è un corpo micidiale, no, non per me. Purtroppo è così. Avanti, Tore. Purtroppo, se sei abile, subito come ti sei a caccia, devi subito massaggiare il guri, per farlo andare. Devi massaggiare il cuore, se ce la fa a battere, è buono, se no, pazienza. Ma quando è fulminante, non se ne bisa nessuno. Se non è fatto così, come c'è giunto a me mi sono giunti tre, ma era ne a rilento. Sono andato tutte e tre volte al pronto soccorso, io, gli avviso che arrivito. Però, o sarà almeno che come ce l'avevo io, se c'è l'ossigeno a portata di mano già ti riprendi, capito? Però se non c'è l'ossigeno, da arrivare al pronto soccorso, era a bocca a bocca, allora dice a ripira, fa entrarmi l'aria, il colpo, e lui con un capo purato di finestrina a bocca a bocca. Sono arrivato così al pronto soccorso, quando sono entrato mi sono arrivato qui, sono giunti dritta alla macchina, mi sta in bocca subito l'ossigeno. Quando vedi così, è stata una fortuna quando uno è bravi, pronto con il defibrillatore, allora buon attimo di uno riesce a rifidarsi, però quando è fulminante la questione, non c'è macchinetta che funzioni, assolutamente no. Avanti, Giovanni. Vai qua a Sabassone in alto, se non respiravo più. Appunto, ma sei stato assistito, appunto. Ma sto pensando, quando vuoi contraggere il dolore, un massaggio è il secondo di sfida. Intanto qual è quello base del massaggio? Ci vorrebbe il defibrillatore, ci vorrebbe in quel caso lì che uno sia anche pratico e che non sia una cosa proprio micidiale, di proprio fulminante, perché se no mi vuoi avere niente di defibrillatore che non riesci a risolvere il problema. Avanti, Gian Maria. Ci sono momenti che uno sta a ciappa così in difficoltà, specialmente quando lo finisci, mamma mia che c'è freddo, oia per carità ragazzi. Purtroppo questi cosi, non ce l'ha più nemmeno, sono colpi di grazia, sono colpi di grazia per carità, però certe volte già fa bene un bel massaggio, allora ce lo dice tutto, ma se no, io metto fra, io voglio per carità, la giunto parecchio di sei attivisti, ma fa di male che a vedere che si ha suffocato. A me a Giumai mi ne mangiano il capo quando mi sono ripigliato, hanno andato in macchina così, quando mi succede una cosa così a chiamare subito il 118, che loro c'hanno l'attrezzatura, che io sono andato in macchina come figliola, con un capo fuori di un finestrino. Il pericolo di passare un'altra macchina che abbia portato un capo, grazie. No, perché di quella maniera mi andava a respirare, no, normale, no, non respiravo. Allora a bocca a bocca così mi entrava l'aria dentro, capito, camminando in macchina con la stessa fuga. E già funzionava, però mi hanno fatto un casino, mi hanno fatto, a non farne più di stronzate del genere. Che mi ha campata ma un pelo, ma dico, che ringrazia a Gesù Cristo, ti ha campata ma un pelo. Ma niente, quando ti sei capita così, devi chiamare subito il 118, è presto a buro. Sono come un bel miracolo, mi ha detto. E Gita mi ha detto, tu sei vivo per me, mia. E io ho detto, non c'è mancata mai questo. E cosa vuoi? Hai compreso? Fa poco si manca a graziare, però se per riusciti a riconciliare il torre. Non è mai niente, il Giammanica, tu hai giocato con un campo a fuori, ci deve essere una macchina che l'ha visto una faccenda in base di una cosa con un cagliotto a Buseghini. Ha mai interrompito subito. No, non è possibile. cazzo ti devi raccontare una bella curiosa. Comunque ha funzionato, hai fatto bene. Se ti senti all'aria, hai fatto bene pausa, evidentemente. E poi con un problema che vai tu, perché chi si dà la terapia, forse più urgente entrare nel viaggio, nel trasporto, dai, arrivando all'ospedale. Perché io come aperto il finestrino, entrava la bombata dell'aria e ho visto che funzionava, allora ci mettono un capofora così, no. E mi figliora che camminando un pezzo, niente, con freddo. E già ha funzionato. Mi è andata a vedda. È meglio così, dai. E noi siamo contenti che ti sia andata a vedda. Certo. Vabbè, dai. A proposito, ma del radio, adesso mi scendo, stato lo gioco. Avanti, Tore. Sto stai uscendo bene, abbastanza. Ehi, a Puglia, a Radio 5, buona. Andava, il segnale è buono. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Di là hai saputo di più. Ma, purtroppo, sono lì e sono contati. Vero, Giambari? Allora, io la saluto, che è più importante di tutti, io so. Dato la salute per tutti, perché è la ragione. Ah, tu mi dici, solo la salute e basta. O no, giù. Beh, questa è la cosa principale, sicuramente. Puro meglio di là. Ti ero grido. Vabbè, cosa vuoi fare, Giovanni? Una base della vita te l'avevo campata. Speriamo che deve avere ancora un po', ma un poco di salita, da buco, una di soffrenza, una di godenti, e una di travagliente, una di fatigene, avevamo raggiunto la stessa età, per cui speriamo bene. Da voi non sappiamo cosa può succedere. Avanti, grazie. Vaggi in mano, la ziota di lavorare di papà mi aveva regalato in argento. Allora, per Cristo, Elettron Gran Tricchi, benché 1914. Chi sono riuso e poi per Cristo cronometre e di marca la cipolla in argento e capita gli fa una riga 1914. Capita. Ma com'ha buonato? È andato lo 15, dicevamo, ormai c'è 73 anni, va. Capita, del 14, 104 anni fa. Dove li sono passati? Vabbè. La di babbo mio invece che la mia patrita, la cipolla di babbo mio. Io ma cosa faccio? Io faccio un telefonino di mamma, da voi cosa metto? Era questa cosettina così, ma di solito così, ma noi la mettiamo in sette e dunque è chiaro, quando tu come sei partita, poi ci vedi cosa me ne possiamo bere, a vita ne hai fatto uno stendo caruso, ma ci siamo i truppi, non è l'odore. Allora, e così è, e purtroppo anche gli orologi fanno così, arrivano a 100, 102, 103 e poi boh, non lo so. Ma Battisio non rientra, Battisio, aiuto, quanti scendi? Deve essere che c'è gente giù in casa sua, se ne hai chiamato per dire va gente. Come si siete pure alle ospiti? E come si pura? Ah, Gian Maria, cosa dici tu? E come si pura? Ben meglio. Poi ho fatto i commissari, sono passato uno, abbiamo stati tra i nocchi, io mi sono messo pure per il motivo, o per figliolo, o per io, o per l'altro, così che sono cacciato per sempre, e a Zabri, e se ci fossi, sono cacciato a Monastico e a TV. così, capito? Dato per gente, come ci fai? E cosa dico? Ai figli, chi si ritirò? Io ero pennato. Ah, una cosa stessa, Edio Marì, la famiglia e i cristiani sono assai più importanti del Maracchino, ma assai però me. Lo Maracchino è di media, e di casi, quando mi sponi i bastoni e tutta la musica. Vabbè, là. E poi a contatto diretto così, di bastone, si va bene da meglio burro, non devi manco far fatica che c'è la portante. Prende grazie. Ehi, amico, anche l'altro, il letto della gorgia, anche il letto della gorgia a tutti e due, mi ha detto, la cucina ha peccato. Questo è d'oro, questo l'avevano dato, regalato i colleghi a babbo, infatti c'è la scritta, i colleghi, il 80 82, quando se n'è andato in pensione babbo, i colleghi gli hanno fatto il regalo, questa cipolla, e babbo l'aveva regalata a me. Meglio così, che chissà, e se non lo regala ai figlioli, babbo, a capo che viene di mano a regalare cose, è normale, no? Meglio così. No, rispetto, loro la cipolla di babbo, verrà a mio padrino Ottore. Che Edo l'ha voluta Edo, anzi a dire la verità, e quando oggi per la mia vista, ma da anni, no, per la mia vista, tu, ma questa qui la verrebbe da a me, e tu la vuoi, e la mia figlia dirà tu, beh, noi ci siamo messi a preghito particolare, Edo l'aveva desiderata, gli ha dato allora, babbo, quando è morto, figlia dirà tu, mi fai considerato che babbo dargli ha detto figlia dirà. Era normale, era giusto che se la fosse appegnata a Edo, oh, grazie. Non avevamo fatto sorteggio i capitoli, ognuno si è appegnato una cosettina e ciccia, avevamo estesamente ultimamente un anno fa quasi che è morta mamma, tutti i miei cosettini, due già frustrati a testa, anzi la maggior parte delle cose le abbiamo eliminate, anche tutto lo mio in casa di mamma per mio padrino, vai, chissà appartamento, no? E tutti i mobili, tutto quanto, ha rimodernato tutto, si è accostumato tutto, nonostante che i mobili hanno i nomi e tutto è bene pure, non è bene. E si è comparato un po' con questi mobili di cassaffetta da mondo convenienza, grazie, mamma mia. Ma purtroppo, di ognuno, ma di solito lei è un capo suo. Avanti, sto. Purtroppo non riboi di nulla. L'idea sua è giambare i mobili, poi dicono non voglio vedere altro, voglio vedere tutto moderno. No, è solo, no, anche paletta. Mi sta fatto così fuori, ero bene rotto lo villaggio, la cristalliera, nuova roba, tutta il macello, e mi ha fatto comprare questi mobili di bambino di soggiorno, belli, sono belli come stessi. Cazzo, ma è strucciolato, si piglia poco bocueva, questo mobile che rimane in terra, la città già non ce lo rampi, era un mutinaggio. Fate la cristalliera, ce l'ho nel pianerotto, la chi in un salone non vi stanzia, ma l'ho coperta con telone, c'è la tua casa non per adesso, si trova da un frase gaivi. Che faccio che pensi che frase che già prima chi sai mi ha fatto comparare, che si mezzi, a chi so pezzi, chi la cristalliera mi sta fatto buio pura. Ma un mezzo fa, io ero in mutria, passata di taverna, e mi ha detto, già me la ripara, lo portiamo nell'armadio, no, appena scorsa. E beh, allora, lo vuole già riparare. Sì, perché era aperto, stavo sistemando la roba dentro l'armadio, come mi sono girata, grazie, va via, lo sportello, dici con l'ingegnere a scatto, no? e dunque è rimasta dritta, è qua, è rimasta praticamente. Come se è girata, che sta bene, non l'ha toccata, ha impinto la sportella e mi è trostato la giardiniera, mi è trostato la base di sopra e mi è caduta la buccetta in terra. E cosa racconta che ho fatto? E mi sono comprato la settimana scorsa, e allora guarda se ne compro un'altra signora, però non vado da mondo conveniente a comprarlo, perché intanto mi succede la stessa cosa, vada nei negozi come si deve. Oh, yeah. Chi poco compra poco ha, cioè chi poco spende poco ha, avanti Tore. Sì, infatti è così. Poi prima a comprarti la roba che a consalla. E così faccio io, quando si facciano, quando la compareggio un'uva e deve la torre a pulire, certo, non so chi vi piace funzionare, no? Oh, sì, i mobili di oggi, beh, con una somma di niente, si ritiene un po' da pulire, mi si chiama un cazzone della mombetta, e torre a pulire, un furgone di Conforama, o mondo convenienza, e oggi la gente così, non ne piglia più mobili, mobili che durano una vita come ti l'hanno pigliati io all'epoca mia, come li prendevano tutti la maggior parte, cazzo non poteva permetti, o se lo prendevano quelli in trucciolare, ma il trucciolare di prima e le estetiche dei mobili in trucciolare, ma a fianco di chi ci dava, che io va via in una credenza di cucina in trucciolare tutta rivestita in vimini a dare i colpi che pigliava, ma è durata una vita. E poi l'ho regalata quella, quando mi ho fatto questa cucina, ci andò a casa di chi ci pigliava ancora, era nuova di zecca, e quel mobile l'avevano fatto lì in quella fabbrica di Macomer allora, ed è nuovo nuovo. Quello di prima era buono il trucciolare, chi ce la va in mondezza? Chi ce la va in paglia, fa caridare, tanto quelli scalente. Sì, prima sì, che prima si sia lungo il trucciolare di Fagio o Graziano, chi vedi chi si pigliava lì, non volte chi si abbaglia di oggi, e poi l'ha visto da lì, puro lo trucciolare normale, pure se non è di Fagio, si è trattato da artigiano, e naturalmente un artigiano mi sa che è lavagliato in maniera perfetta, e sta tranquillo che un mobile trucciolare ti dura una vita con te, se ti dura, solo che voi buoni siete accorgimenti di voi, tipo ad esempio non devi arrivare a terra l'armadio o il mobile, ti vuoi sempre la cioccolatura oppure li bevi, fai di no, in di anda affidato vi vuoi un regno, fateli in classe, inseriti un regno, in quel lato, non è che avvidi in altro regno. E non tu mai di nuovo una vita così, però dimmi tu, in fabbrica di che cose non ne vanno, in fabbrica di tanto trattare di chi sono scalente, e allora ma stesso tempo da voi, se lo sai quanti lavagani, allora andiamo vinti, ma da poco poco a tu parli, e tutti si cacciano, e se mi cacciano in nato, se mi cacciano, fa carità, mi prende Giovanni. E mi pare che sei assintato. Ma poi l'impellicciatura di adesso non è come adesso, adesso gli fanno pantagraffati e fa video chi c'è chi vè. L'impellicciatura che facevano prima era i vimini, era l'altro, e li buniani vero bozzico, li cullavano i vei, no come stava, con un mobile, basta che piglia un raggio di sole e si imbuccia tutta l'impellicciatura. E dunque è tutto diverso, non sono più quelli che fanno oggi, non è come prima gli altri duravano una vita, adesso non durano niente quei mobili. Ma perché costano poco e lo fanno così in quel modo, perché devono battere la concorrenza di chiunque, e allora fanno i lavori in questo modo, si sa. Ma ripeto, un trucciolare, intanto se tu andi a compararlo in un'altra rivendita di legname, un trucciolare è di Cristo, basta sapendo trattare, o meglio, basta trattando come ci si deve, non è sapendo trattare, a chi sapendo trattare lo posso lasciare da trattare, però se è un maestro lascia sedio, davvero, e mi vedo tutti i cazzi di collegamenti, vado in tutti gli incassi, muro di giardiniere, ad esempio, il giardiniere a scatto, poi un legno, fatevi l'incasso, quasi, e un trucciolare, è senza una saletta dentro, di legno, e con l'altro da poi tu puoi affidare tutti i dipinti che ti mai di piace, che hai affidato un altro legno praticamente, e non molla. Quando con la legge lo fondo o un cappelletto con i fianchi, lo battesti, ti affidi un altro legno, è tutta un'altra musica. Dentro ti affidi un altro costruzionale, e lui con il costruzionale battesti si spacca. Poi quando si affida, si frema, si frigni con due besti, lo metto in via da pedale, si frigni, in modo che quando entra la vita, lo impacca, mette la mano da cosa fare, il biglia la vita direttamente e già il patente già è impaccato. Se la reca a casa, non si vede, appena che chi apre la chiave, lo macone, si tira aria, si fa corrente, nel tuo casa si c'è l'armadio. Vai, Tore. Purtroppo sì. Purtroppo sì, se no Mastro lascia bravo, ma te lo fate vero mobile. No, un po' di voce mi sono dice che se ne affuttino, se lo fate così, mentre la vede un po' da uno, due anni, non si viene più. Appunto, ma alle voci non tanto abbastanza bravo, ma dimmo che deve essere onesto, soprattutto onesto deve essere. Perché se uno è onesto, va bene, e lo trova di rubare con un tempo di tuo senza corrie, e fallo a impatticia dura, e fatto la anestesia a maturaccia dura, a Maragana. Però ripeto, deve fare così, se gioco di sede, deve cercare di avvidare i collegamenti, tutti i santi al legno, tu vuoi dire, ma un bandetto, compare di un bandetto in trevo, non dargli il quadrigente, ecco una volta che è quadrigiato, oh buono, il lato P le fai nel classo e senti lo legno dentro, in modo che quando abbia la vita le vedi bigliare in altro legno e poi è andata la baglia, perché non tuccio male è faccia, se caduta, trucciolo, dai, trucciolame, e il discorso è diverso, ecco che e poi mi lasciamo gli arrosà, vai grazie. A voi hai ragione, no, noi abbiamo, io ho fatto un sacco di porte anche, ho fatto tutta l'intagliatura in abete, di intauri di questa misura, da 4, i listelli tutti pronti, no? Tutte varie misure. Chi ci lascia tutte le graffe, un poco di colla e le graffette, ho fatto i telai. Poi al centro, per riforzarlo un po' di più, fanno imbaccarsi, gli ho messo là un'anima, lo stesso una secca di una traversina di sempre di quell'età. Poi ci ho messo tutto il nido d'ape e poi ci ho messo il foglio di compensato, tutto sparta la colla, poi su in alta ai ghivi e poi messo l'altro foglio, incollati così, poi messi alla pressa. All'indomani le squadra, ti facevo i buchi per la maniglia, fare un briscio e poi gli facevo i buchi per le annuba anche, tutti pronti, li portavo in verniciatura, una carteggiata, il cogliere un fondo sotto e sopra, dopo una rinfrescata, l'indomani una carteggiata e la finitura. E Monvesta l'avevamo fatto un bel, però quelle che facevamo noi già erano belle robuste, te la gli, là, non erano sottili come un baietto, buono una treccia di daura di 2 centimetri e ti fanno della Iovussi, cioè erano belle robuste le mie, perché erano pesantucce quando era finita la porta. Ed è stesso, se tu li fai un telaio duro ad un giro di minimo 6 centimetri di larezza, moduli da voi quando attacchi le giardiniere, quando attacchi un briscio eccetera, la maniglia eccetera, anzi se la maniglia deve pulire pure i bestie di supporti, il vento, in modo che da voi la maniglia avvigliano il legno. Allora beh, tu pensa lì, non trovate il tamburato, a chi si è tamburato, fatto quello per fare eccetera, no? Non trovate che dura di più in assoluto, nel modo più assoluto. Dove me, costruzioni migliori di un tamburato fatto con tutti i disegni, per paio, tutti quanti i pezzi nei vari punti dove ci vanno le cerniere, dove ci va la maniglia, dove ci va anche la parte bassa della porta, in demanda l'altro con la dura, tutte queste cose, no? E sì, chi sei Nino? Trovaggio, mi trovo qui bene la saluta, meglio di farlo martello, a che vestito martello, è bello, è pesante ed è di molto valore, indubbiamente, anche è caro, che costa il materiale, però tu avevi un colpo di gaggio e ti ripacca a che è tutto martello, invece grande tamburato dura tutta la vita, è interessante il mio codino di goccia, che se tu passi con la gandria e ti ricordi un colpo, il bolbo di fondà, questo sì, però come duratura di lavoro, come duratura di lavoro integro, che voglio dire, però di chi si parla integro, il lavoro integro, il tamburato è la costruzione migliore in assoluto, a parte il pregio, però è grazie naturalmente. Lo so, e poi non vicia, perché io e lei gli intaccavo papà prima, ne pigliavo così, la avvicinavo alla sega circolare e gli facevo l'intaccatura a destra e a sinistra. Fanno visi a me, sennò da voi è capace un po' di giù dritto, magari secondo noi la piazza è troppo caldo, da voi mi ha preso e si legge il rosario. E allora gli intaccavo tutti i pezzi di legna che poi li incollavo tutti qua per fare il riquadro e tutto, capito? E sono uscito un bombo di Vassanforza, anche su Baratti, che vi sono cooperativi. Adesso è un adiuvato di anni baiti. Ugnali se ne buscato due camion pieni. Ugnali. Sicuro? E se no dovevamo, ci facevano pagare la penale se non consegnavi i puntuali, capito? Me la bei. Avanti Batti. Sì, sono ritornato. Bene, avanti Giulio. Ok Batti, stavo dicendo, è una radio fortissima oggi, proprio bella, prepotente, giusto? Veramente bella. Evidentemente hai un buon apparecchio in questo momento, stai usando. Meglio così, sei tornato ai vecchi tempi, Batti, come radio, alla grande. E a Marino, più sentito là? Siamo visti con Marino. Sto lavorando in casa, sto facendo i lavori in cortile, dunque è impegnatissimo. E aver mai tornato ancora una settimana, poi già più libero. Allora, ritornando alla radio. La radio è una 899 della Vox, un Intec, 40 canali. Ok. Ma è vicino a casa che hai? E qualche vento o qualcosa del genere? Perché si sente il fruscio di fondo, si sente, però la radio è bella chiara, prepotente, proprio forte, fortissima, molto bella. C'era la ventola dell'alimentatore, stava funzionando, adesso l'ho spenta. Ancora si sente? No, adesso appunto, ma non avevo capito che era una ventola, certo. Sì, no, va benissimo così, grazie. Cioè, Batti, molto bello. Radio bella, prepotente, possente e chiara, soprattutto chiara. Vai, Tore. E a Batti, già sei a posto. È buono così. Si prende, grazie. Ehi, allora sì. Ma la giù che io tra gli vatti, per carità, manco le chiane, e così a Bacchino sta uscendo bene, meno male, a chi la tradifa di abidaia, i scia da voi faria, da voi si andate a sottare un letto, da voi si andate a sottare mante, e spariva sempre, meno male si è adeguato. Antenna a posto l'hai messa, bella bene. L'antenna è sempre la stessa, grazie, non ho fatto nulla l'antenna va bene. L'antenna va bene, l'apparato era che era malato, non questo, l'altro è malato. C'è mal di pancia, capito? Ehi, poi c'è la battumiera, al barrubiccio, cosa? Stai viva a butturare un gabbo. Trotta che ti trotta, quando tanto non ci vedi male, e non è così, Tore. Cosa, Graziano? Non ti stavo ascoltando. Che gli altri altri giorni scorsi, sta facendo male il bacchiglio, meno male ha migliorato adesso. Signora Greco che ha migliorato. Bravo signor Bacchi. Sicuro, sicuro. Adesso proprio l'altro, non c'è stato il suo funzionare. Aspetta che gli metto il microfono e via. Eia! Giulio, in questo orologio della Bolana di Babbo c'è anche la bomba, tu già l'hai conosciuta, una bomba che si apre e si chiude, sembra una ghianda, però la chiamavano la bomba, già l'hai conosciuta, ed è in argento, e dietro c'è una pietrolina santa, benedetta. Bella, tienitelo qua contro quell'orologio, graziato, perché intanto perché un ricordo di tuo padre, poi se è d'argento è giusto che sia così, tienilo conto, così almeno poi passerà di padre in figlia e così via. Sì, anch'io avevo la radio grande, io ce l'avevo ammalata lo stesso, grazie, e l'ho andata a aggiustare, un amico me l'ha aggiustata veramente bene, qua a Sassa, proprio alla grande, molto molto bene, ha fatto un bellissimo lavoro, prima usciva sì, però non su tutte le frequenze, adesso funziona perfettamente su tutte le frequenze, per cui va benissimo e sono contento. Un amico veramente bravo, capace di fare queste radio professionali eccetera, grazie, molto molto bene. Sono contentissimo e lo ringrazio infinitamente, sempre, tutte le volte che lo vedrò lo ringrazierò. Avanti Tore. Cos'è signor Bacchi, cosa dice succedendo? Stai fischiando. No, Giulio, io c'ho sempre quello là da farmi aggiustare, quello che ho conservato, che dopo di un po' esci a mare, te lo ricordi? Sì, ma io sto parlando da Radio Grande, mi ringrazia, non devo fare anch'io, no. Io sto parlando del Kenwood, per cui quello a Sassari sono in pochi, diciamo che c'è solo uno che ci sta mettendo le mani dentro, l'altri no, non credo proprio, guarda, assolutamente. Non c'è stato bisogno di spedirlo fuori, niente, me l'ha fatto questo amico radioamatore, una persona in gamba veramente, ma non perché mi ha fatto un favore, perché di favore si tratta, in quanto non mi ha fatto pagare niente nemmeno, se mi ha posto un burro di componenti che ci volevano, me li ha sostituiti, però ce li avevo, no, non si preoccupare, non ho avuto manco un centesimo. Ma no, non è che lo sto vantando perché mi ha fatto il lavoro, no, perché so benissimo che lo conosco anche di persona, lo conoscevo già da prima, era una persona seria, era una persona capace veramente. No, è un pulcinello lui, come si dice a Sassari, grazie. Ciao Bacchi, stai uscendo male. Bacchi, stai uscendo male. Non ci comprendi nulla. Regola, lo abbassa un poco. Cosa abbassa? Se non parli Marocchi, cosa abbassa? Non si sentiva qua. Qui sta facendo tutto troppo forte e male pure. L'abbassa il tutto, Bacchisio. Ciao mammarino, sei un buono della carretta. Io sempre quello là me lo devo fare riparare, è un peccato, ma non mi ha messo il maco, come si chiamava il Sarrati. Ma di che serve il dente? Di un presidente, un dente. Quello lì che si bloccava o se ne andava in saturazione. Quello che ce l'avevo io prima, quello, già me lo ricordo. Prima ce l'avevo io, poi l'avevo dato a Franco California, e poi non lo so, ho fatto anche lì. Ma andava benissimo, era una bella radio. Solo che non c'è l'FM, aveva solo una banda laterale, la M. Questo qua. No, allora non è quello il presidente mio. Il presidente allora. È quello, unidente, è il presidente. Già ho capito, sì, è quello. Quello grande, la base, con lo Smith rotondo. No, quello lì già funziona. Quello lì è il Washington, è quello. quello già funziona, è messo a posto, funziona benissimo. E AM bande laterali. Il presidente, quello veicolare, che mi aveva venduto il suo disegno, va? Non mi ricordo, Franco si chiamava. Ah sì, Franco Bianco, vabbè, io non ha mai cambiato mai, che su questa radio. Sì, appunto, ero ve l'ho pregato, quello da base, quello grande. Il presidente Washington Uniden Eni Puri, l'hanno preso, e la marca totale è così, presidente Washington Uniden, oh grazie, beh pure scritta da niente, mi pare, per cui è quello, sì sì, ah va bene, avrai visto, ma quello funziona molto bene, mi grazie, e come modulazione è forte, bella, chiara, pulita, giusto? Lo ce l'ho conservato, quello l'ho messo in una scatola, ci ho messo il polistirolo, il microfono, l'MB+5, quello palmare, e l'ho tutta bella chiusa, sigillata, ce l'ho conservato questo. Ma l'altro, quello che mi aveva venduto Franco, venduto, ciao, ma vi ho fatto, l'avevo dato un PMR io. Per quello lì e da poi funzionava male, quello lo stesso io lo voglio aggiustare perché come radio già mi piace. Sì, e beh, presidente, sì, ma sai quanto è stato malmesso? Perché mi sembra che lui l'aveva modificato, boh, non lo so, comunque vedi un po', invece la foto se si può pugnare a posto e se ne vale la pena, perché non ne vale la pena, oggi mi con 150 euro ti prendi una bella radio veramente, come ha fatto Antonio Barracuda, 164 ma l'esattezza, dai, e si è comprato un bel baracchino superstar di lusso, il Maribano Bari 350 canali, ha tutte le frequenze, AM, FM, banda laterale, e funziona anche in 10 metri, si può immaginare, è benissimo, è un superstar, uno dei migliori in assoluto, come marca, grazie. Già lo so, ma già c'ho questo io che c'ha tutto quanto, è bellissima questa radio che c'ho, questa qua, c'ha tutto lo stesso, ma l'altro già mi piaceva lo stesso, capi? E io, ma quello me lo volevo fare riparare, il nostro Garadalla con Sallo, Dalla a me. E tu mi ne dai uno di due. Oh, io te lo riparo. Io te lo riparo. E c'ho la cassetta dove si butto tutto io. Non che sono rientrato, buonasera di nuovo. No, è nuovo nuovo, già l'avevi visto, è un peccato, io non lo voglio l'ampazzito visto. C'è solo quel problema che dopo di un po' si andando in saturazione, quando mai non vedo un imbecille a tratta di credenza a un San Miro. Guardate che te lo porta a Vittorio, visto, trattandosi di baracchino, guardate che lo faccia lui. Qualche volta qualcuno già l'ha riparato, prova a domandare a Vittorio se lo vale, oppure se no lo dai a Antonello Bonfoglio, magari ne cava ben dietro. Io già lo conosco uno che lo saprebbe per riparare, però non è entrato più in frequenza ed è anche bravino con i baracchini. Si chiama Giancarlo Tucca, tu non hai conosciuto in frequenza, ma è uno che di baracchini se ne intende veramente, e questo te lo posso garantire. A proposito, Giulio, Antonello gliel'avevo portato, mi aveva regalato la potenza, ma vi ha detto di non che hanno educato la potenza, infatti me l'ha regalata e ha chiesto il controllo a Claudio, che c'era Claudio il giorno, e mi ha dato un controllo che funzionava bene, e vabbè, allora me l'ha redatto, ha fatto 2 minuti, va pure, c'è da casa, lo attacco, dopo di un po' faceva di nuovo quel difetto, e di dunque che cosa, no, non era dalla potenza allora neanche, perché lei a quello me l'ha abbassata, l'ha regolato più di quello e non c'entrava niente invece, chissà cosa va. E cosa volete di chiaro? Tanto se tu lo mandi fuori non ne vale la pena, perché si prendono per ripararlo, già ci sarebbe il continente qualcuno che non lo ripara, anzi più di uno, però se mi vedi di là canto questa lupo non ne vale la pena. Tu mi dai, ma questo è uno che costa intorno ai 300 euro un presidente, d'accordo, sono d'accordo con te, ma se la vuoi tu mi vedi a 150 euro cosa ti conviene? Non ti conviene più, lascia perdere, qui se la batti te lo tieni come cosa, come ricordo, e te ne compri un altro eventualmente. Avanti Giovanni, ben rientrato. Quello del suo sempre. E quello è stato manomesso, ma manomesso veramente, ecco perché gliela faccio. Per carità, vabbè, non vale la pena ripararlo quello infatti. Sì, quando era nuovo va bene, bello l'apparecchio, andava bene, però una volta toccato, specialmente la guardia, che non funzionava mai quell'apparecchio. Qua non se ne vanno perché non ci hanno strumenti da altri, ma dacci pure Vittorio, non riesca a mettere sulla posta, prova dalla Vittorio. Tiro fisi e te lo conservi bene e te lo compri un altro, poi ce l'hai l'apparecchio nuovo, quello che stai usando, per cui sei tranquillo adesso, ha voglia, ed è buono pure, c'ha tutto quell'apparecchio che stai usando. Lo so, ma non è quello, che mi dispiace tenerlo uscì arrombato, perché se sarebbe stato a posto quello l'avrei fatto funzionare anche con quello là, capito? Perché come radio è bello, mi piace come radio, non è una radio brutta, è bella come estetica e tutto, e poi c'ha tutto lo stesso anche quello. Io Vittorio un ragazzo, se no ve l'avevo la zia con Sammino. Vittorio già è bravo, già lo so che è bravo, magari lui che cavassura. Ecco, vai, signora Forti, se si può fare, se non si può fare. Sono signora Forti, come fai a tenerlo così? Si vai, lui, che c'è questa pelle, che vuoi che così lui? E mi dice, te lo faccio pure no. Ma io non lo so dove. E via Mosca, via Mosca. Via Mosca è sopra i vicino a Montelepre, via Londra, via Parigi, così. Esatto, in quella zona. Per cui, vai in laboratorio, può essere che lui ne faccia di questi lavori, non lo so, perché lui lavora principalmente sulla TV e altre cose, ma non so se si impegna o se ha tempo di impegnarsi per i baracchini. Sì, qualcuno già l'ha riparato, ma forse l'ha riparato quasi per cortesia, almeno suppongo che sia così. Comunque, vedi tu, non lo so. Avanti, Bacchini, cavallo ne vai in giro a Bracchino. Io sono tornato alla vecchia. Voglio. Io qua Vittorio, c'è tempo, è sempre impegnato questo qui. Vittorio è un bravo radiotecnico, però non so se ne fa di quei lavori, dei baracchini, questo non te lo so dire, non ho mai avuto modo di chiedere e di essere informato al riguardo, assolutamente no. Comunque visto che sei andato da Mara, Graziano, Baracchino è meraviglioso, ha una radio formidabile, bella, potente, pulita, però lì è CRT, mi pare 5005, così è. Questo è il nuovo che avevo comprato, 7009 questo. Questo è digitale, c'ha il display grande, arancione, c'ha tutto, non ne manca nulla, è tutto questo. Sì, lo so, anche il frequentimetro ha quello lì. Tutto c'è. meraviglioso, beh, 7009 è un'ottima radio lo stesso, poi ti sento come ti sto ascoltando, io ti sto ascoltando proprio professionale, ma è una radio straordinaria, veramente bella, bella, soprattutto chiara, oltre che molto forte, ma è molto chiara. E come microfono quella stiamo usando, è un microfono suo originale, mi pare. Il suo originale, cioè di M1000, ma non mi interessa. Gli M1000 l'avevo preso per quello là a farlo funzionare. No, no, c'è il suo originale, CRT, M7, c'ha dei pulsantini sopra, è bello, è bellino. Sì, già lo conosco, 7009, l'ho visto tante volte al computer, sì, è una bella radiolina quella, veramente, già lo so. No, non hai bisogno di microfono amplificato, grazie, perché stai uscendo una bomba, proprio bella, una bellissima radio, chiara, pulita, anche perché quel tipo di apparecchio lì, il microfono modula il 95% della sua potenza, per cui non è come un normalissimo microfono come i baracchini di prima, che modulavano se no il 50-60% della radio. Quello lì ti modula il 95%, per cui è quasi al massimo, è straordinario, veramente bello. Avanti Giovanni. La potenza io ce l'ho a zero, mi è tutta chiusa, è chiusa proprio. Vai Giovanni. 4 watt, la potenza chiusa sono 4 watt. Così che è bello, mi apparecchio bello. C'ha l'attacco come il telefono, lo sinostro. Però già c'è l'adattatore che può mettere qualsiasi microfono, però anche mettendo un preamplificato non l'amplifica tanto, non l'amplifica tanto perché è già tutto predisposto quell'apparecchio. Sì, appunto è quello che stavo dicendo, che modula il 95% della sua emissione, quel microfono lì ha già il 95% della sua emissione, praticamente è a livello di una radio, di un microfono preamplificato, per cui non ha bisogno di sostituirlo, va benissimo così, ultimo, veramente ultimo. Avanti Battizio. No, io sto facendo bene Graziano è una bomba e si vede che c'è potenza anche in quell'apparato, non è solo 4 watt, quello sono mio 5 watt. Qua c'è anche l'eco, si sente? Hola! Si sente moltissimo, è bellissimo lo stesso, grazie. Va bellissimo, è veramente una bella radiolina, bella, veramente bella. Chiaro gioco, questa è intorno ai 200, 215, una cosa del genere, così è. Non lo ricordo quanto avevo pagato, mi sembra 2,50. 2,25, grazie. Ah, 2,25, me l'aveva lasciato. E in più mi aveva dato in omaggio questo spinotto, l'adattatore per poter attaccare altri microfoni. L'ho provato una linea e l'ho tirato subito, non mi piace. Gli lascio il suo microfono e andavi. Non hai bisogno di altri microfoni, non ne hai bisogno. Perlomeno qua, a casa mia, arrivi che è una potenza fenomenale. Te lo sto dicendo. E suppongo che anche fuori, anche se parli in DX, ti sentono lo stesso benissimo, perché è una bellissima radio. Va bene, va bene. Non basticciamo altri microfoni, che il radio non ha bisogno di altri microfoni. A meno che non ti dicono dal continente quando parli facendo gli ex che la radio è bassa, allora potresti anche pensare al microfono preamplificato, però non è necessario secondo me per parlare con noi a Sassari e anche nella zona di Nitrope a Sassari, come c'è Bocchidorra, Usini, Usi, Dissi, tutti quanti si sono, non ce n'è bisogno perché va benissimo. No, guarda che ci ho modulato con uno di Bologna quest'estate di mattina qua e mi ha fatto i complimenti, quel tipo di Bologna che ha arrivava la bomba mi sentiva bene, benissimo. E ti sono già con gli esempi, non è che ti sto dicendo una cosa sbagliata, no? Ti sto con gli esempi quello che sto ascoltando, per cui va benissimo, va bene, bene, bene. Per cui no, tu tieni il conto più o meno alla radio di Battiglio, mantieni il tuo momento, eh? Ecco, tu sei né più né meno allo stesso livello, con la differenza che quella di Battiglio è un po' più corposa, perché ma quello dipende non solo dal microfono ma anche dalla voce dell'uomo e diverso, ma tu che hai i toni alti soprattutto nell'uola, esci benissimo, hai una chiarezza fenomenale, nessuno ti può dire niente, mi poco barato, nessuno, se qualcuno dice cosa dice Marco, non ho compreso ancora niente, vero Gio Maria? È quello che dico io. E so, un bel apparecchietto là, ne ce ne sono tre, mi sembra che sarà anche Marco con l'apparecchietto, per cui no, vanno bene là, non c'è bisogno di piangere niente, va benissimo, infatti quello sì, l'apparecchio, però non gli piaceva perché non ti segna i numeri dei canali, capito? Però tu una volta che sai la frequenza, sei a posto. A lui gli piaceva il 5500, quello che ho io. Quello gli piaceva perché c'è il frequentino, perché più c'è il numero di canale e tutto, capito? No, ma questo basta una volta che prendi mano, è come 5500, la stessa cosa. Oh, un attimino, Giammarì, mi sto allontanando io che sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo. Va bene, vai pure tranquillo, capito Gio? Sì, beh, ma in effetti è così, ma uno la frequenza, la sa a memoria e non cambia niente, se poi non ce l'hai numerato il canale, uno quando sa la frequenza anda per un te. Sì, cazzo, c'è voglia. Chi era l'amico che voleva entrare? Ha detto, reato io, esco così come esce Graziano. Buonasera a tutti. Avanti Giulio. Ok, ciao Franco. È un altro di Cimarini. Vai, sei una bomba che tu, Fra, alla grande, veramente. Questo è quel mio apparecchio famoso che faceva il difetto del tuo, Fra. E adesso l'ho messo a posto, me l'hanno messo a posto, non è che l'ho fatto io, me l'ha fatto un amico e va benissimo, perlomeno tutti mi dicono che va bene, a parte il discorso antenna, magari che il segnale può essere più basso, ma sì, l'antenna di prezzo non è più quella di prima, ma non mi interessa, il cuore interessante è che funzioni bene, soprattutto il radio, che poi anche il segnale non è malvagio, così mi hanno detto, avanti Fra ancora. Cassa giù, no, non è malvagio, 695, modulati 910, diciamo che è buono, no, la modulazione è buonissima, è abbastanza perfetta. Poi del resto va bene, dai, si sente che stai usando quello lì, si sente. Va bene, metto in mano tutta Gio Maria, buonasera Gio Maria. Buonasera Fra, ben sentito. E infatti anche tu non lo scherzi, dai, vai bene, vai. Ma vanno bene, poi siamo vicini, noi che siamo lontani, per cui le radio da ce le abbiamo buone, sono tranquille e così via. E beh, Graziano infatti, quella radio fa benissimo, poi c'ha una voce, cosa si può dire, gli arriva chiara, ma qualsiasi apparecchio che lui usa, si sente chiara la radio, giù. In qualsiasi apparecchio che tu gli dai, lui parla e lo sente chiaro. Ah, la voce è proprio bellissima. Sì, Graziano ha una voce bella, per cui qualsiasi radio che può usare esce sempre bene, perlomeno. Perché lui ha i toni medio-alti, capito? È un po' come me, bassi io non ne ho, lui lo stesso ne ha pochissimi. E i toni alti sono quelli che spingono, per cui chi fa mettere la voce bella, corposa, sono i toni bassi, ma io purtroppo i toni bassi non ne possiedo. È pazienza, è cosa vuoi fare. Graziano ne ha pochi lo stesso, però la radio è ultima, è perfetta. Avanti Battiglio per Franco da Sosso, vai. Ok, buonasera Franco, io non ho ascoltato, solo il segnale 920, radio non l'ho ascoltato. Avanti Franco, ci ascolti? Caffa che ti ascolto. Ciao Battisio, buonasera, ben ascoltato. Non so se mi ascolti, però boh, non lo so. Probabilmente tu sei un altro tipo di zona, zona più meno favorevole. Niente, vedi se mi hai ascoltato, Battisio, ripeti tu. Ok, alla grande adesso, fra, alla grande. Radio 5 perfettissima, 9.10, 9.15, oscillante. Ciao Franco, ben sentito. Ciao Graziano, ben ascoltato anche a te. Va bene, va chi? Allora già Fernando, sta funzionando ancora questa vecchia radio. Avanti a te Graziano. Ehi, già stai arrivando abbastanza bene qua, è chiaro, è pulsa la radio, a voglia. Ok, Tore è andato, si è assentato, rientra dopo, così ha detto. Rilancia Gian Maria, riprendi Gian Maria. Ok, vediamo a Bacchi, signore, Bacchi, avanti, ci sento abbastanza bene. Adesso avanti, riprendi. Adesso mi sento Franco. No, poco fa non ho ascoltato perché c'era lo squash chiuso. Dunque non entrava. Io stavo per dire, che intanto c'è lo squash è chiuso, e infatti, perché adesso tu già ti senti bene anche lui, capito? Perché tu anche tu vai bene, no? No, io ho partito da conto, diciamo, segnale di quasi 9 e diciamo 8, dai, 8 di segnale. Radio è 5, perfetta, bellissima la radio. Allora siamo tranquilli, va bene. Ok, giù, allora che altri l'hanno riparato, quella persona brava, lo so che è bravissima, quando ci mette le mani sopra, non è che lo fa tutti, però a qualcuno già lo fa, e quando fa lo fa come si deve. Cosa c'è in mano, capisci oggi? Sì, Giovanni, indubbiamente, no, è una persona come si deve, e se no non l'avrei nemmeno dato, non l'avrei nemmeno contattato, siccome sapevo chi stavo contattando e allora ho voluto, anzi, l'unica cosa che mi dice è tutto che non l'ho disturbato, ecco, sto lì, però lui ci ha dimostrato una persona ottima, oltre che capace, no, a fare il lavoro, è una persona squisitissima, veramente è in grado di fare le riparazioni, appunto, me l'ha rimessa a nuovo, Giovanni, me ha rimesso a nuovo la radio, guarda, ti posso garantire che me l'ha rimessa a nuovo, ma su tutte le frequenze, non solamente sulla 27, su tutte le frequenze, in banda, in FM, in tutto, dappertutto, va benissimo, oltre al fatto che adesso sento anche le mosche, a differenza di prima che certe stazioni basse no, magari non riuscivo a sentirlo dal continente, no? quando faccio ascolto, eccetera. E adesso nonostante l'antenna scadentissima che ho per quelle frequenze per l'ascolto, che a proposito prima o poi mi farò un dipolo almeno per l'ascolto, per la trasmissione, no, perché non lo posso usare in quelle frequenze, però in ascolto lo posso usare tranquillamente e mi farò un dipolo, però ripeto, ma ha fatto veramente un gran bel lavoro, ottimo, non ha voluto nulla, sai cosa vuol dire nulla, nemmeno il componente ha voluto parlare, mi ha messo tutto gratis. E ti dirò di più, Gian Maria, è stato talmente gentile che è venuto, se l'ha preso lui e me l'ha riportato lui nel giro di un giorno. Oggi l'ha aiutato, domani lo ripara, dopo domani me l'ha riportato. Così ha fatto Gian Maria. Cosa vuoi che ti dica? A una persona del genere cosa gli vuoi dire? Se non parlarne più che bene, se è un grido. Va bene, avanti Battisio. Ok, io sì. Ma il grande, stai parlando dell'apparato grande, Giulio? Sì, sto parlando del 440, sì. Ok. No, anche cosa lì, Vittorio di Favore lì? No, non lo so se ne parla Vittorio radiotrasmissione, non lo so. Qualche baracchino so che già l'ha riparato, ma suppongo che anche lui se vuole, se si mette lo che lo faccia, non lo so. Io so solo che questo amico è un radioamatore, giovane, tra l'altro, giovane di mezz'età, dai, diciamo, per cui ha fatto veramente un buon lavoro, anche perché è attrezzatissimo, lui oltre alla passione, oltre alla capacità e la passione, anche tutta la strumentazione, ecco qual è la differenza che fa magari fra persona e persona, la strumentazione che può regolare tutto, ecco cos'è, tutto lì, questo qua, lo diciamo così, un radioamatore che una volta era in piacevole di Pasqua e si è trasferito sul monte, già mi conferma. No, quello non sto più lavorando, quello fa il vigile notturno, mi pare che prendi, qualcosa del genere, quello non sta più lavorando, no, assolutamente, quello che poi tra l'altro non mi ricordo nemmeno più come si chiama. No, quello lì, il laboratorio, non so se c'era ancora il laboratorio, ma suppongo che ce l'abbia. È vigile notturno adesso quello, così mi hanno detto e così ci sto dicendo, Bacchino. Avanti, Fra. Ecco, va bene, giù, va benissimo, si sente anche abbastanza bene, lo so che lo fa bene, lo conosco anch'io. Va bene, niente di particolare. E questa è la cosa, mio Giulio, vicino 80, che sto usando adesso. Questo l'ho dato a quella persona che sta dicendo tu, e questo me lo sono tenuto. Come sta uscendo questo? Meravigliosamente bene, Fra, ultimo, veramente bello, è una radio perfetta anche quella, e tra l'altro quella ha tutte le bande, anche i 6 metri, per cui va più bene, cioè è ancora meglio come numero di frequenza, vabbè, il 440 dicono, io non lo so, ma dicono che sia superiore sia al 140 che al 80, così dicono, poi non lo so, perché io non ce li ho mai avuti, io ho questo e basta. Però per sentito dire la persona che hanno avuto tutti i tipi di apparecchiature, il 440 dicono che è superiore, anche perché ha l'accordatore incorporato e dunque va bene, solo che gli mancano i 6 metri, gli mancano, cioè i 50 mega, ma comunque quello è un altro discorso. Va benissimo, Fra, alla grande, veramente. Capo. Sai, diciamo che quello che c'hai tu del 440 è bellissimo, perché mi piaceva, perché non c'aveva bisogno di scaldare quello lì per partire, più c'ha l'accordatore automatico, e diciamo che è molto, molto migliore anche del 680. Tanto, 6 metri, cosa te ne fai? Non va mai a nessuno, non ascolti mai a nessuno, figurati se serve, poi a noi non si serve bannuccio. Avanti, Bacchi, volevo farti una domanda, ma certe sere ti sto ascoltando, e c'hai problemi di microfono, come mai? Bacchisio, Giulio. Giulio, a domani se coincide, ciao a tutti. Va bene, grazie, ci sentiamo, ciao, grazie della chiacchierata, a domani se coincide. Mi rispondi, Bacchi, vai. Sì, ciao, grazie, buona serata, sono in casa, a domani, e fatti sentire. Avanti, Fra. Capo, dai. Ciao Graziano, buon tutto, dai, ci sentiamo, molto giovedì serata. Avanti Gian Maria per saluti e poi giriamo, dai. Ok, ciao, grazie, saluto di casa. Che ti ha fatto la domanda, Bacchi Franco, vai Bacchi. Sono ascoltato, l'ho distratto, che stavo guardando un'altra cosa. Scusa Fra, ripeti. Capo, ho detto, l'altra sera ti stavo ascoltando e c'avevi sempre problemi di microfono, come mai? Allora, perché adesso sta uscendo abbastanza bene. Ma non era questione di microfono, di radio, ho cambiato radio. Siccome la vecchia radio che c'avevo con Inter, che è 34 canali, difetta, quando scalda un po' si sta zitto. Allora che non viene non usarlo quello lì. Perché ho sentito cambiando microfoni, cose, ho detto, ma strano che non riesce a abbinare in una radio un microfono. Su quello là, ci ho lavorato giorni e giorni. E cos'era? Era la radio difettosa, non il microfono. Era la radio che non accettava niente, proprio zero riposo zero. Ieri mi sono messo, ho fatto su questo, alla prima è andato avanti. Ecco, vuol dire che i microfoni erano buoni, la radio allora. Va bene, avanti Giulio. Ok, sì. Sì, poi a Battiglio poi le chiedo se c'era ancora il 45. Stavo dicendo, qua, tornando al discorso differenza 680, 140, 440, la differenza è che il 440 è a tre conversioni, hai capito? O quattro conversioni, no? Adesso non mi ricordo bene nemmeno io. Ed è per quello che lo lasci per dire, non so, a 10 watt e quando non li accendi, anche a freddo, sempre 10 watt sono, a differenza magari del 140 o del 680, che lo metti per dire a 10 watt, lo metti e magari te lo ritrovi più basso, quando non scalda, poi che calda magari diventa di nuovo la grande come deve essere. Ecco qual è la differenza tra il 440 e il 680 e il 140. Sì, quello del 440 parte subito, sempre con la stessa potenza, quello sì, quello già lo so. Mentre questo che sono io adesso, che sto usando io, questo parte da basso, parte da pochi watt, parte man mano che scalda, si aumenta da solo, si aumenta, fino ad arrivare dove l'hai messo tu, per dire, ne metti 30 e arriva a 30 e si ferma, capito? Ok, avanti Giovanni. Poi c'è in più, infatti, il 440 che c'ha l'accordatore, mentre invece quello che c'è tu non ce l'ha l'accordatore, fra. E anche quello è un vantaggio, il 440, Però quello che c'è in più sembra così, ma anche se non c'è l'accordatore, quello quando scalda pompa, Io so che pompa. Io adesso sto usando 30 watt, lo sto usando. Lo uso sotto i 30. No, se vuoi l'aumento ne dà. Ma infatti no. Cosa aumenta fa, magari di extra puoi fare, ma fra di noi non c'è bisogno. Anche così qua fatti arrivi, e come arrivi? Arrivi bene pure. Io quanto ne sai uscendo, quanto ne sta uscendo il tuo? Il mio? Se guarda, aspetta che guardo. 15 in questo momento, Giovanni, però il discorso mio è legato sempre al discorso antenna, no? Perché nella posizione, perché non va bene, l'antenna va bene, solo che nella posizione dove è salvata è troppo bassa. Se io la rimetto dove c'era prima la motorba turbo, a Franco gli arrivo intorno ai 920, 925, a differenza di adesso che gli arrivo 95, 910, ecco qual è la differenza. Ma c'è una differenza di 6 metri di altezza tra l'antenna dove la prima, dove adesso, Gio Maria, ecco qual è la differenza. E anche quella è vera, vanno bene tutti. Vanno bene tutti, solo io sono piccolino che saprà. Non sei piccolino tu. Arrivi benissimo anche tu, arrivi. Giulio, però io direi di aumentare di una cosettina in più, a meno che non ce la fa l'antenna, la tua, però è meglio usarli dai 30 in su, questi qua, perché non è una radio che puoi usare a 5 watt o a 10 watt, capito? Perché viaggia meglio con una trentina di watt. E che la toccaccio piace, no, anch'io, però è che la toccaccio più. È da una parte, non assolutamente. A me la potenza non è mai piaciuta, a me basta un 4, massimo 5 vado bene ugualmente, così che non ho, però là non l'ho toccato più, là. Perché magari non c'è posto. Non c'è forza, fra, dice che va bene così, dai. No, non stavo dicendo quello, perché la radio lavora meglio, non è il fatto di piacere o non piacere la potenza, è la radio che lavora molto meglio con quel tipo di potenza lì. Non dico di andare a 50, 100 watt, ma almeno 20, 30 watt va bene, lavora più bene la radio, di farla lavorare a 5 a 10 watt, capito? Avanti giù. Sì, lo so, io lo stesso non l'ho mai usato a potenze superiori, mai ai 20 più o meno, massimo 20, ma però di solito io lo uso a 10 watt, per cui non faccio lavorare troppo, capito? Lo tengo sempre a queste potenze e so che va bene. Ha aumentato qualcosa adesso? No, va bene giù, va benissimo. Sì che ho aumentato un pochino, sì, quasi 9-10 secco. Appunto, sì che vedi bene, se voglio già lo faccio, aspetta che lo rimetto come era prima, ragazzi, che non era nemmeno 15, era la testa con gli occhiali, era intorno ai 12-13 watt, aspetta, come la prima, dai, intorno ai 12-13 watt come la prima avevo visto all'occhio nudo e non l'avevo visto bene, adesso con gli occhiali ho visto che era intorno ai 12 watt, 12-13, ma sempre usato così, anzi tante volte lo uso anche a 5 watt e va bene, non è il caso. Ma a me mi hanno detto di questi qua usarli così, mi hanno detto di usarli, di non usarli più sotto perché lavorano male. Poi non lo so. Va bene, Battisio, avanti. Quando è freddo fa 0,5, la mano che scalda poi arriva a 30-50, io ce l'ho intorno a 35-40 quando scalda, però adesso è freddo, non lo sto usando questo qui, sono una con l'Intec. Come io, sono rientrato io. Ciao Tore, buonasera, ben ascoltato, anche se non stavi parlando da lontano, non stavi uscendo basso. Sì, va bene, ma sì, già va bene, dai. E poi, tu quando quello lì lottari, quando calda arriva sempre dove l'hai tirato tu. Se lottari a 30, a 30 va, se lottari a 50 va a 50, figurati. Avanti, Tore. Sì, anche il mio, adesso è a 5, però quando lo metto va a 50. C'è un piano. Avanti, Giovanni. Sono io, vabbè, io purtroppo sono piccolo e nero, signori, io vi devo lasciare, per cui ne approfitto e eventualmente ci sentiamo domani se Dio vuole e se coincide, per cui saluto Giulio, buona buonasera, saluto Nicasa, saluto a te anche Franco, buonasera, ben sentito. Tore, riprendi tu, io chi va, ma chi? Stammi bene, ciao. Ok, ciao Gianmarì, ci sentiamo domani se tutto va bene. Anda bene, buonanotte. Riprendi il signor Bacchi. Ciao, salutiamo Gianmarì, buona serata. E saluto in casa, a domani se tutto coincide, vai Giulio. Ok, ciao Gianmarì, grazie per la chiacchierata, saluto in casa anche da parte mia, dai, alle prossime, a domani, cerchiamo di renderla viva questa frequenza che stava morendo, se no che ci siamo parecchi aduri di buoni gruppi della ragazzetta della mondezza, invece se li usiamo ci divertiamo. A domani Gianmarì, ciao, grazie ancora, riprendi fra. Ciao Gio Maria, buon proseguo, buon tutto, dai, ce la ascoltiamo le prossimine, a domani. Keffa, Giulio, ma tu hai sempre il dipolo? Sì, sempre il dipolo, un dipolo autocostruito, in verticale però, Tu presente ce l'hai, la Game Master, l'antenna, quella che vendono, mi sembra che costa 155-160 euro, una cosa del genere, se ricordo bene. Io l'ho fatta uguale a quella, una canna da becca, 7 metri, una bobina con 19 spine attorno a un tubo di 30, di quant'era? Di 63 mm, 6,3, dai, o 6,5, una cosa del genere. 19 spine di cavo H155 e poi fino alla metà quella, fino alla metà antenna. L'altra metà è un filo ed è secco da saranno 2 mm, 2 mm e mezzo, una cosa del genere. Per cui va bene così. Sono, c'è un sopra, c'è un altro spessore piccolino, saranno 9-10 cm, perché fa da condensatore, e poi c'è anche un'impedenza lunga intorno ai 55, 56, 60 cm. Autocostruita, la gibotta io ho derrato per accordarla, e dal giorno è andata bene al primo impatto, fra, non ne ha più cavata, è piazzata nel terrazzo con 1,20 m di palo, niente di più. Se la metto dove c'era prima la manta battumo, sale di almeno 6 metri come minimo, e sono convintissimo che rende quanto è la manta battumo, se non anche di più. Ehi, capo, no, perché arrivi bene, quello lì, cioè con la matta, diciamo che mi arrivavi 9,20, a volte 9,25, dipende come mettevi anche la potenza, però normale mi arrivavi sempre 9,20 prima, mentre adesso sei 9,95, è diverso, dai, pensavo che tu ci avevi messo di nuovo un amante qua su. No, assolutamente, no, non l'ho rimessa su, l'ho lasciata, no, me l'ho tolta, ma l'ho tolta per il semplice motivo, perché quando si soffiava vento la notte era un tremendo, faceva un fischio tremendo, e allora me l'ho tolta per quel motivo lì. Allora mi sono preso questa canna da pesca e ho provato a fare questa antenna, che ne ho tolto tutte le misure dal computer, no? Ho scritto sulla tastiera, costruzione, antenna, Game Master, spiegazione. Ho schiacciato l'invio e mi ha fatto tutta una serie di misure, eccetera. Ho rispettato quelle misure e ti devo dire che questa antenna fa da 1,2 a 1,4 massimo in tutta la gamma della 27, si può immaginare, di stazionario, di ROS, sicché perfetto praticamente. E come potenza io posso partire dal canale 1 al canale 40, sempre uguale, identico, è sempre la stessa potenza di ROS, la stessa cosa. Però se faccio dal 26 sino al 27,700 e fischi, è tutta una frequenza, massimo arriva a 1,4 di stazionarie, va benissimo al primo tentativo, rispettando con le misure, fra. Capo, sei riuscita. Oh, va bene, perfetto. È buona come trasmissione, va benissimo. Avanti, Tore. Scusa un attimo, Tore, se completo questo piccolo cosa che ho detto. Probabilmente, siccome trattandosi di un dipolo, il dipolo in effetti deve essere installato ad una certa altezza dal suolo, e cioè dal tetto. Se io la sollevo, probabilmente quell'1,4 anche scende come ROS, perché è così, il dipolo per una questione tecnica, quando è troppo vicino al suolo, cioè agli ostacoli, ecco, è meglio agli ostacoli, è meglio dire, allora aumenta il ROS. Se io lo tiro su e la metto ai 6 metri dove era prima, allora sono sicuro che avrò se no 1,1, 1,2 massimo di stazionarie. Riprendi Tor, scusa se mi sono intromesso quando hanno rilanciato per te, vai Tor. Sì, che cosa? No, comunque la canna da pesca ci vuole per forza anche caricata, ci vuole la cosa, come si chiama, la molla di carica, e più ci vuole un tubo in PVC per farla tenere sino a 2 metri, 2 metri e mezzo. Ma io l'ho riportata con un tubo da elettricisti, quel tubo rigido, però l'ho riportata con quella, Tore. E in questi giorni che il vento in Sardegna è arrivato anche a 160 km l'ora, magari non a Sassari, ma a Sassari è soffiato oltre i 100 all'ora, e ti posso dire che non gli ha fatto niente, perché oscilla molto, è una canna fresca, è ovvio che oscilla, però guarda, strada, non si sente nessun fischio, non si sente niente, non l'ha fatto niente. Io salgo internato, me la controllo, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta, due volte alla settimana me la controllo, e devo dire che è sempre perfetta, non ha fatto niente, niente di niente, nonostante il forte vento. E lo so, perché ce l'ho io, ce l'ho anche, quindi ti vedi, io faccio un danno a gocca giù un poco, a me corica da metà corica un pochettino. Sì, te lo sto dicendo, io nelle giunture, dove c'è l'innesto della canna da pesca, lì ci ho messo un pezzo intorno ai 35-40 centimetri di tubo da elettricista, fissato con le facette, sia da sopra che sotto a quel tubo lì, e poi, nastrato, le facette, intanto le ho messe in acciaio inossidabile, prima di tutto, le ho comprate apposta da Palmieri, in acciaio inossidabile, poi le ho rivestite con un altro isolante, la bobina che c'è sotto, sono 19 giri di cavo, e le ho messi, poi l'ho rivestita con l'altro isolante rosso, che ce l'ho, no, l'altro isolante rosso, perché essendo nero il filo, quando l'ho fatto, perché l'ho fatto rosso? Per portarlo praticamente quasi originale, nel senso che l'originale, la Game Master originale, la bobina è rossa, e cioè il cavo coassiale è rosso, e io per portarlo a quell'effetto lì ho preso il nastro isolante rosso e la bobina l'ho rivestita con il nastro rosso, così anziché vedere la nera la vedo rossa. Ecco com'è ho fatto bene, così a manco non si arrugginisce. Io ce l'ho lo stesso, io ce l'ho delle fascioni, delle staffe, in acciaio inossidabile sono, che li ho comprati da coso, dietro quello che c'è dietro il panificio, da quello lì li ho presi io. Ok, no, io le ho comprate, le facette le ho comprate da Palmieri, della ferramenta Palmieri, per cui, perché tanto lo sapevo, se metto con le facette di coso, di lamierino, si arrugginiscono e poi sono anche brutte, prima o poi si rompono, invece in alluminio, ecco preso quel metallo lucido che non si arrugginisce, dai, non mi ha capito, dai, adesso mi scusi in questo momento. E la zingatura stai dicendo? No, il metallo, acciaio inossidabile, ecco, acciaio inossidabile, no, non zingato, acciaio inossidabile, le facette, adesso mi è ritornata la memoria di come si chiamano quelle facette lì, sono in acciaio inossidabile, e dunque la vite e tutto quanto, tutto in acciaio, per cui non si arrugginisce mai, anche se io li ho coperti con la serrante, perché li ho facciate bene anche con la serrante, li ho facciate, ma comunque non ce n'era bisogno, perché essendo in acciaio inossidabile non si arrugginisce nemmeno se li butti in mare, nell'acqua salata, capito? Vai, riprende e fai girare. Sì, che nella pesca sono buone. Signor Bacchi! Sì, signor Bacchi, approfitto del micro per salutarvi, per le che vado in QRT, causa arrivata l'ora. Bene, ciao Franco, grazie della compagnia, a risentirci domani se coincide. Direi che le patate per Giulio, ciao Giulio, salutissimi, da domani, che se tutto va bene. Anche Tore, ride con le patate. Siamo in casa tutte e tre. Bocchise in questo istante, ascolta Finalino, poi passa in QRT. Vai Franco. Ciao Battisio, buon pomeriggio, buon tutto, dai, e buona serata. Ci sentiamo tutte le prossimine, se coincide a domani. Avanti Giulio. Ok, ciao Bacchi, grazie della chiacchierata, domani dai, domani ci sentiremo senz'altro, se Dio vuole. Così almeno facciamo quattro chiacchiere anche domani. Avanti Tore. è così. Ci sentiamo Bacchi, alle prossime. È così, purtroppo quando sono usciti bisogna tenerle così, isolarle bene, e vedrai che non succede mai nulla. Io sono così lo stesso, la mia è tutta isolata. Anche tu hai la canna da pesca, così? Allora, non c'ho la canna da pesca, io. Ogni tanto le attaccoliamo per pescare. Fai bene. No, io dopo tempo fa, sarà un annetto fa più o meno, perché adesso questa io ce l'ho già almeno un anno e mezzo, forse due anni anche già piazzata, così l'avevo messa per provare le stazionarie e così l'ho lasciata, non l'ho più tolta, anche perché ripeto, al primo tentativo è andata bene, stazionarie non le ha, ce l'ha regolare come deve essere. E l'ho consigliata anche a Franco aspetta, il marito di Ombra, una vecchia CB, insomma, ecco, che trasmette lì dal Monte Rosello Basso. E anche lui ce l'ha fatta, anche lui, detto, intanto gli ho mandato io tutte le caratteristiche tramite WhatsApp, gli ho mandato, no? E poi gli ho detto apri il computer e vedi un po' che ci sono tutte le misure. Beh, nel giro di una settimana se l'ha costruita anche lui e se l'ha piazzata in facciata, più o meno come se l'ha Natalino l'antenna, non so se lo sapete come se l'ha Natalino, ce l'ha in facciata attaccata al muro di facciata, che sorpassa anche il piano di sopra, perché lui abita sotto, e c'è benissimo, con le stesse caratteristiche, lo stesso sistema, con le stesse misure, e funziona anche la meraviglia, o Tore. Anche lui se l'ha fatta, dopo dietro il mio consiglio, e riprendendo, con quattro soldi ti fai l'antenna, riprende Franco. Risparmio un bel. No, io della verità, Giulio, vabbè, io l'avevo anche messa prima di te, l'antenna, la mantropa. Io da quando l'ho fallata non l'ho più scesa, è sempre rimasta lì. E ogni tanto gli metto un rosmetro lì, la controllo, e stazionaria è sempre buonissima, sempre tranquilla. Non ho fatto nessun difetto. A quanto ai fischi, boh, io non li sento, no, tutti questi fischi da questa antenna. Per me è normale. E niente, e poi ti volevo fare un'altra domanda. Ma Ombra perché? Sta modulando ancora? No, Ombra no, Franco, il marito, modulava fino a tempo fa, poi evidentemente non si è più fatto sentire per il semplice motivo che frequentano, non c'è più nessuno, non c'era più nessuno e nemmeno lui si è più sentito, ma sto parlando di alcuni mesi fa e ormai. Suppongo che prima o poi anche lui si riaffaccerà. Se noi continuiamo a farci frequenza, senz'altro la gente si incoraggia e ritorna, perché è così, perché chi ha la passione per la radio è una passione che non se la dimentica, per cui perlomeno noi che siamo tantissimi anni in frequenza, come fai a staccarti dal baracchino? Non ci stacchiamo mai, siamo gli unici che la stiamo tenendo in vita, ma se entrano lui, sicuramente qualche altra persona entra di nuovo. Ecco, ad esempio, Claudio lo stesso non è più entrato, non ha più inteso, ma stava lavorando, stava facendo dei lavori a casa sua, per cui può darsi che sia impegnato, ma so che anche lui non è tanto facile per lui staccarsi dal baracchino, prima o poi ritornerà. Adesso, ripeto, sta lavorando, sta facendo dei lavori a casa sua e forse non gli manca il tempo. Ha fatto il discorso che ormai non c'era più nessuno tra questi. Ma oggi stasera, diciamo, ci siamo divertiti, è stata una bella ruota e ancora ci siamo rimasti in tre adesso, ma eravamo addirittura in sì, per cui va bene così. Ok, riprendi Tore. Come sto dicendo io, stasera noi qua in frequenza ci trovi molte volte alle 6:10, 6:15, molte volte entriamo anche alle 7, entriamo, dipende, non è è che ci siamo tutti i giorni, ci siamo. Ok, no, ma il fatto è questo, che io magari salivo, perché io non ce l'ho giù, nella zona alta della casa, salivo, attendevo, non sentivo nessuno e spegnevo, magari facevo anche una chiamata, non va nessuno, e allora spegnevo e me ne scendevo di nuovo giù a guardarmi la televisione, oppure mi mettevo al computer, eccetera, eccetera. E così passavo le serate lo stesso. Stasera invece sono stato fortunato che quando ho acceso c'eravate voi e allora mi sono trattenuto e come vedi ci sono ancora. E mi siamo già più di due ore, mi sembra, frequente. Riprendi Franco. Capita. Diciamo che a volte l'orario che questo orario che entrano tutti quanti, entrano nessuno tra le 7, qualche volta alle 6:30 entrano qualcuno, a volte io non ci sono, nessuno mio, sono in Sassari, io sono in Lugo, poi arrivo qua alle 8 e tutto spento, non c'è più nessuno, capito giù. Appunto, è quello, se non c'è nessuno cosa stai? Hai visto davanti alla radio a perdere tempo e a sentire il rumore, tu mi dirai, ma metti lo squelcio, il rumore non lo senti, d'accordo, ma non ha senso stare lì davanti, se non c'è nessuno, tanto male me ne rimango giù insieme a mia moglie e la famiglia, eccetera, eccetera. Poi è ovvio, se c'è qualcuno mi fa piacere anche scambiare quattro chiacchiere, certo. Ritornando al discorso antenna, Tore, ecco per quale motivo a te ti arrivo 9.5, per il semplice motivo che l'antenna io basta, l'antenna tu, probabilmente anche tu non ce l'hai molto alta, non lo so, ecco che siamo lì, però dipende, sono principalmente da me, perché la mia antenna è nel terrazzo, ed è, oltre ad essere bassa, è anche racchiusa dai muri della terrazza, e quello è importantissimo, Tore. Ripeto, se io la metto dove c'era prima la mantova turbo, che poi tra l'altro la mantova turbo ce l'ho sempre, però è montata, lo stilo centrale è ancora intero, però l'ho messo coricato per terra nel terrazzino su della mansarda, perché c'è un terrazzino di 8,50 m per ogni lato, per cui l'ho messa lì e ci sta bene, quello non ho smontato, anzi non ci ho nemmeno provato, non so nemmeno se si smonta, perché col passare del tempo magari l'alluminio tarda cioè non riesci più a smontarlo, a meno che non lo scaldi prima col bruciatore, eccetera, eccetera. Però l'ho lasciato intero, ma tutto il resto è smontato e quello è tutto dentro casa. Capito, Tore? Se io metto l'antenna, questa è un canale spessa, se la metto dove c'era la mantova tubo, sono convintissimo che si supera abbondantemente il 9.15 a casa tua, Tore. E altrettanto sarai tu nei miei confronti, perché allora, oltre a avere più trasmissione, avrò anche più ricezione, è ovvio, Tore. Sì, infatti, è così. Vabbè, dai, a me mi soccia meglio. Dai, ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao Giulio, ciao Franco, alle prossime. Ok, ciao Tore, a domani allora, dai. Grazie per la chiacchieratina, buona cena quando la farai. Ci sentiamo alle prossime. Riprendi Fra, anch'io fra un po' dovrò scendere per la cena. Avanti Fra. Ciao Tore, buona cena, buon tutto, dai, ci ascoltiamo alle prossime. Giù, ma come devo dire, quell'antenna che tu hai messo, perché non te la smonti quelle volte che te la blocchi veramente il coso, diciamo l'alluminio, lo sai che mette lucido. Lo so, ma certo, è lì alle intemperie, con il casa per terra, tu pensa che c'è ancora quel funghetto che c'era in punta, c'è sempre, anche perché io l'avevo rifossato tutto, avevo fatto un bel lavoro, tutto bello lastrato tutto attorno per rinforzarlo, perché quella essendo plastica magari il sole eccetera la secca la plastica e ne sarebbe caduto, e mettendo tutto rinforzato con l'altro, e devo dire che appoggiato tranquillamente ed è sempre intero il funghetto, ed è un'antenna che ormai ce l'avrà all'incirca 3 anni in tutto, anche se adesso più di un anno e mezzo e oltre che non lo sto più usando, però ripeto, lo stilo centrale è sempre in strada, voglio dire sotto il cielo, perché è nel terrazzo, quando piove si biglia l'eva, si biglia il vento, si biglia i giorni, si prende tutto quello che scende dal cielo, per cui vedi bene, non ci ho mai pensato di smontarlo, fa, anche perché l'intenzione era di rimontarla, e invece ho visto che questa funziona bene, ho lasciato questa, intanto ho visto anche che riesco a parlare col continente, con l'estero, eccetera, e allora ho deciso di lasciare questa. Casomai questa la posso spostare in estate e metterla al posto se dove c'era la turbo prima, che allora avrò ancora più potenza. Sì, quello sì. No, io volevo dire che ti conviene smontarla quella lì, perché e mi metterla al riparo, perché è meglio averla sempre in un'antenna di ricambio, non si sa mai, una cosa o un'altra può sempre succedere. Beh, quello sì, ma a male estremi estremo rimedio, mi posso un'altra subito, sarebbe buono, guarda che in un paio d'ore la fai con l'antenna che ho fatto, mi dovresti che mi voglia stare, no? Un pezzo di filo, dunque in tutto mi sembra che avevo comprato 7 metri di cavo, una cosa del genere, di 7-8 metri, adesso non mi ricordo bene, l'ho usato, l'ho fatto 16 giri intorno a questo tubo di scarico di fluviale, eccetera, no? Che è di 63 mm, e ho fatto 12 spire, ho fatto 12 volte, ho girato attorno, no? E poi da lì è partito, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliare, a 2 metri qualcosa, boh, non me lo ricordo, e arriva praticamente al centro della canna da pesca. Poi dal centro della canna da pesca c'è un filo elettrico, proprio un filo solo, da 2,5 sarà di spessore, 2,5, fino a 3,50 metri, quello dovrebbe essere lungo, insomma in tutto diventa alta intorno quasi 7 metri, sì, 90, 7 metri, una cosa del genere, vedo che funziona, va benissimo, ripeto, niente stazionarie, niente problemi di fischi, di vento e niente, regge che è una meraviglia, anche alle intemperie, va bene, insomma, ecco. Sì, vabbè, se regge anche al vento va bene, non è quello il problema. Però no, io sto uscendo bene comunque, se la metti come hai detto tu, allora caspita, è molto migliore di dove è adesso, e allora problemi di mettere l'altro non ne hai, basta mettercela dove ce l'hai della mantova turbo a vedere, perché questa ce l'hai detto più bassa ed è per quello che, però nonostante tutto arrivi bene. Sì, appunto, te lo sto dicendo, fra, quando c'è preparazione in estate, eccetera, anche da poco, stavo parlando con Claudio, sarà un mese fa, sarà più o meno, e si è aperta la preparazione, e ho parlato col continente a grande, proprio, addirittura mi dava 9,5, 9,10 di segnale, da radio a bomba, eccetera, eccetera, sempre con quell'antenna lì, appunto, ripeto, è un dipolo praticamente, ha alimentato alla base e va che è una meraviglia. Al centro poi c'è uno spessore che fa da condensatore, o meglio da impedenza fa, ed è lungo 56, se ricordo bene, 56 cm, e poi su in alto, all'altezza della metà dell'antenna, lì c'è un altro pezzettino, quello è un condensatore, si chiama così, condensatore, è un pezzo di RG 213 lungo 9 cm, quasi 10, là, 9,5, una cosa così. Quello farà condensatore, mi fa, capito? E ci vuole, perché è così, le caratteristiche dell'antenna è così. È praticamente il prototipo della Game Master, con la differenza che la Game Master costa 160 euro, e io la ci penso se hanno 30 euro, non di più, 35, no? Una cosa del genere, o perché ho preso, allora, te lo dico subito, 16 euro di canna da pesca, da Decathlon a Santa Maria, a Sassari, no? Una canna da pesca. Ne ho tolto il cimino di su, la parte sottile sottile, l'ho tagliata, l'ho tolta quella, e ne ho messo una da una canna da pesca che mi ha dato Giulio Morito, il meccanico di Sassari, un amico, no? Perché? Perché nella punta, siccome il filo è infilato dentro la canna da pesca, e nella punta lì non ci poteva passare, allora l'ho sostituito la punta di quella canna da pesca con un altro pezzo di canna da pesca un pochino più grossa, l'ho sostituito. Poi in punta, per sostenerla, in un primo momento ci avevo fatto un nodo in modo che il cavo non scendesse, perché era sospeso in alto. Poi, guardando in mezzo alle cose che ho io, no, vite via e tutte le cose, ho trovato no? Un morsetto che io utilizzavo per i mobili, e ci ho messo quello con una vitina, sì, che ci ho avvitato quello, ho stretto la vite e rimane in punta alla cima, vuol dire non rimane mai un virus, capito? Insomma, devo dire che ho fatto un bel lavoro. Capo, cosa hai preso, la canna di quelle con la anelli oppure quella per i fiumi, quella senza anelli? Ah, non lo so, c'erano degli anelli e io non lo so, io ho preso una canna che non sia conduttiva, non deve essere di quelle canne che abbiano materiale ferroso, capito? Costa 16 euro da Decathlon ed è lunga 7 metri. Sì, allora è quella per fiume, quella c'ero io anche una di quella, di 7 metri, e c'è il cimino solo sopra e basta. Tutto il ferro, tutto quello che era ferraglia l'ho tolta, e appunto e poi l'ho fissata con le fascette io, ma le fascette nelle giunture, sai, la canna da pesca quando tu la tiri su e hai elementi, no? In ogni elemento gli ho messo queste fascette, ma ho visto che non dà nessun fastidio quello lì, e va bene, però la canna in se stessa è tutta una cosa in fibra di vetro isolante, non ferrosa, capito? Capa, perché quando te l'hanno portata quella lì sembrava un bastone, sembrava, poi dentro c'aveva tutto il gommino e togli la canna. Ah, ho capito, sì. Appunto, è così che ho fatto. Insomma, ho cercato di renderla più precisa possibile alla Game Master originale. Se ti sto dicendo, la bobina l'ho nastrata, l'ho fatta con nastro rosso, proprio per farla quasi precisa alla Game Master originale, perché la Game Master originale, che la fa da Sirio, mi sembra che la fa, è rossa, la bobina è rossa, cioè con l'avvolgimento di 19 spine attorno a questo tubo, no? È rossa, e allora io per rassomigliarla molto ho comprato il nastro isolante rosso e l'ho rivestita al nastro isolante rosso, e pari la Game Master originale, pari. Dimmi una cosa, ma quanto ti sto arrivando io lì di segnale? Guardalo a vedere, Giulio. Ti metto la contante che mi sono gli occhiali. Ok, vieni a vedere così, com'è? 9 e 12, però tieni presente sempre il discorso dell'antenna mia che è bassa, dunque se è bassa ho meno trasmissione e anche meno ricezione, ovvio, no? Capo guardando oltre quello, aspetta un attimo, è evidente che pulendo ho toccato l'elemento della potenza qua. No, adesso è 9.10, però ha dei picchi positivi a 9.15. Capo. Sì, siccome quando parlavo mi dava picchi di 100 mi dava poco fa, adesso no, adesso sono a 30, e probabilmente ho toccato io, non me ne ero accorto. Ah ok, ho capito. No, io me la regolo, la radio io me la regolo per i picchi, tu lo sai, nel 440 c'è quella freccetta rossa, grossa, sotto, sotto a tutti, no? Non deve superare di molto quella freccetta lì, quando non supera di molto su quella freccetta, perché se supera quello allora incomincia a saturare e devo parlare da lontano, io ho tutta la lunghezza del braccio, il microfono, e il microfono ho a uno appena col processore però inserito, se invece tolgo il processore allora posso aumentare, posso, allora posso aumentare il mic gain, e per cui va bene lo stesso, non è che non va bene. Poi nel MC60 sto utilizzando i 50 ohm anziché i 500, cioè, tu lo sai, nel microfono c'è la cosa, la slitta sopra, non il microfono, che ti dà 500 ohm oppure 50 ohm. La sto utilizzando ultimamente a 50 ohm, prima la utilizzavo a 500, però un altro giorno parlando con Claudio mi ha detto lasciala così che rimane un pochino più amplificata, perché 500 la usi a 50 ohm, e così l'ho lasciato. Sì, sì, infatti dovevi usare a 50. E sotto l'MC60 c'è un tastino, lo devi mettere in, quello lì va in, ma 50 sopra, 500 lo, è meglio 50, che ti tiene un pochettino più amplificato. Poi la MTG lo tieni tra 1 e 2, va benissimo. No, proprio a 1, a 1, il mio è a 1, proprio a 1, perché se l'aumento sicuramente strappa. Provo a aumentarlo, aspetta, che mi metto in posizione, perché io sto parlando ma sono sbagliato, bianco. Ma va bene, beso e ti faccio un po' le prove, aspetta un attimino. No, così è troppo. Così ancora, così ancora strappa ancora così. No, lo strappa, però è meglio a uno, dai. Se arrivi a uno è meglio a uno. Perché il mio saliva un pochettino ancora più di uno e andava benissimo. Andava. E probabilmente l'ha tarato diversamente. Probabile. Adesso è troppo basso, perché io me ne accorgo dallo smitter qua, no? Aspetta, che me lo regolo come la focante. Ecco. Ah, 1, 2, 3, prova. Ancora un pochino, posso. Ecco, così dovrebbe essere come prima, confermi? Confermo, va benissimo. Appunto, quello che tu, c'è la LC, no? Qui c'è la LC in questo apparecchio, e tu sposti la leva e la metti a quella misura, non deve superare quella striscia rossa, quella grossa, quella che è a metà dello smitter, non deve superare di molto quello, solo quei picchi deve superare, ma di poco però, perché se no vuol dire che va in saturazione, mentre invece se sei in banda laterale allora il discorso è diverso, allora si può anche aumentare un pochino e non satura. Capo, guarda, guarda se cambia qualcosa, adesso scaccio cosa dell'LC. Ok, no, così no. No, niente. Ok, sì, appunto, è quello che stavo dicendo, io lo tengo così, infatti io difficilmente chiedo anche come sto uscendo in radio, ma perché me lo regolo direttamente dallo smitter, cioè questa radio qua non ha bisogno di consigli di nessuno in pratica, dai, tutto sommato, perché lo smitter c'è la strumentazione che ti consente appunto di uscire in aria proprio bene, subito, senza bisogno dell'intervento dell'interlocutore, quel dito a basso o alta, capito? Sì, io gliela conosco quella, la radio, conosco bene, tanto, ma preparato sono tutti uguali, sono. Va bene, Giulio, io ti lascio che mi stanno chiamando e ce la ascoltiamo le prossime, dai, fatto piacere sentirti e farci una chiacchieratina. Ciao Giulio, alla prossima, avanti te. Ok, ciao Franco, ciao, è stato un piacere riascoltarti dopo tanto tempo, dai, alle prossime, grazie a te per la chiacchierata, dai, a domani, fatti sentire comunque fra, dai, cerchiamo di venderla viva questa frequenza, ciao fra, di nuovo, ciao, a domani. Ok, ciao.